si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì, può fare. Di Alessio Maurizi. E buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare, buongiorno di Radio 24, il sabato e la domenica mattina, oggi staremo insieme fino alle 11, daremo un'occhiata alle prime pagine dei giornali, poi ci sarà il nostro contest per indovinare il personaggio della settimana con dei biglietti per delle mostre in palio, sentiremo il ministro della cultura Brai più avanti su alcuni sviluppi di vicende come per esempio i bronzi di Riace Pompei, ma anche la di Carditiello, tante altre cose, il bello dell'attualità che cambia, ma cominciamo subito con un paio di buone notizie. And now, the good news. Allora, prima di tutto una notizia che riguarda la sanità pugliese. Va avanti l'esperimento di fare gli esami clinici anche la notte. Non è un esperimento quanto un nuovo modo di gestire la sanità, facendo lavorare insomma le macchine, le persone anche la notte. Bene, si è allineata anche Foggia e questa è una buona notizia per tutti i foggiani. Si accorciano naturalmente le liste di attesa, ma ripeto, questa è una nuova linea di tendenza che si sta affermando in Veneto, ma anche in altre regioni come per esempio in Toscana. L'altra notizia che vi voglio dare è questa, riguarda l'economia, c'è una piccolissima inversione di tendenza che è stata segnalata venerdì scorso all'inizio dei saldi. Ebbene, saldi in ripresa, vendite più 3%, una cosa che non si vedeva da parecchio tempo e quindi sicuramente questa, dicono i commercianti, è per loro ma per noi tutti segno di una piccola inversione di tendenza nell'economia. Benissimo, andiamo a iniziare. Naturalmente una notizia pressoché ignorata dai giornali di ieri, la notizia era di venerdì e invece oggi che cosa c'è sulle prime pagine dei giornali? Ci sono un po' di interviste, un po' di notizie sparse qua e là, nessun tema particolarmente dominante, per esempio il Corriere della Sera si occupa del post incontro tra Letta e Renzi con un'intervista al segretario del PD Renzi di Aldo Cazzullo. Letta non si fida di me, titola il primo principale titolo del Corriere oggi. Il leader del Partito Democratico dice: sono leale, però dobbiamo correre, saranno 15 giorni decisivi. Vediamo un po', va, il governo va avanti ma non così, sulla casa balletto indecente. Renzi: il quadro emerso dal suo incontro con Letta è univoco, accordo fatto, nel 2014 si lavora insieme, rimpasto e codice di comportamento. È davvero così o si rischia ancora una rottura? Non si rischia nessuna rottura, ma guardiamo la realtà. La popolarità del governo è ai minimi, non ci sono più le larghe intese né l'emergenza finanziaria. Se uno mi chiede cosa ho fatto da sindaco in questi 11 mesi, so cosa rispondere: piazze, asili, pedonalizzazioni. Se mi chiede cosa ha fatto il governo in questi 11 mesi, faccio più fatica a rispondere, dice Renzi. Ma come sono davvero i rapporti con Letta? Letta non si fida di me, gliel'ho detto l'altro giorno, ma sbaglia, io le cose le dico in faccia, sono le stesse che dico in pubblico, non uso due registri diversi. Impareremo a conoscerci. Il PD proporrà che il contratto di coalizione impegno 2014 non sia un documento scritto in democristianese, dice Renzi, con il preambolo e frasi arzigogolate. No, noi in direzione proporremo che il patto di coalizione sia un file Excel. E gli chiede Cazzullo: a noi over 39 ci spiega che cos'è un file Excel? Nella prima casella si indica la cosa da fare, nella seconda i tempi in cui la si fa, nella terza il responsabile che la fa. Un esempio: tagliamo il 10% del costo dell'energia per le piccole e medie imprese. Chi lo fa? Entro quando? Poi si comunica. Le rendite finanziarie sono tassate al 20%, il lavoro praticamente al 50%. Riequilibriamo. Bene, come, quando, con chi? Cose concrete, cose così. E poi c'è una battuta anche sul ministro dell'economia Saccomanni. Pensa che, come ha detto il suo braccio destro Nardella, che il ministro dell'economia debba essere un politico? Il problema, dice Renzi, non è Saccomanni, il problema è la forma mentis burocratica, è la politica che non decide e non agisce. Chiarezza di obiettivi, rapidità di esecuzione. Sulla legge elettorale abbiamo fatto più noi in questo mese che tutti gli altri negli ultimi 3 anni. A proposito di Saccomanni, c'è un colloquio sul Messaggero di oggi di Saccomanni che dice: contro di me attacchi gratuiti, non intendo dimettermi, i mercati ci guardano, se lasciassi adesso sarebbe una sconfitta per tutti. Sulla mini IMU si sta facendo un caso nazionale per poche decine di euro, dice il ministro dell'economia. casa, scusate, caos, casa e tasi. Perché prendersela con il tesoro, dice Saccomanni, quando è chiaro a tutti che il pasticcio è frutto di scontri politici? E poi, per esempio, sull'altro caos, quello che riguarda la scuola e le buste paga degli insegnanti, ricorderete, d'accordo difendere le buste paga degli insegnanti, allora però si faccia lo stesso con poliziotti e militari. Così Saccomanni sul Messaggero. Sulla Stampa di oggi il caso Piemonte in primo piano. Piemonte, la Lega va in piazza ma ora Cota rischia il processo. Vediamo un po' cosa è successo ieri. C'è stata la manifestazione, la fiaccolata, hanno parlato i leader leghisti. Intanto però ci ricorda la Stampa, nei giorni scorsi i pubblici ministeri hanno chiuso l'inchiesta di Rimborsopoli ascoltando l'ultimo dei consiglieri regionali che hanno scelto di rispondere alle domande dei PM. Si capirà per quanti dei 43 consiglieri regionali indagati arriverà la richiesta di rinvio a giudizio per peculato. Tra loro c'è anche il governatore Cota. Ma lo stesso Cota dal palco ha detto: scontrini, queste sono solo schifezze, perché siamo stati noi a tagliare i costi della politica, 30 milioni l'anno che saranno usati per i bisogni dei piemontesi. E il segretario della Lega Salvini ha rincarato la dose: il prossimo leghista che toccheranno, non so se sarà Torino, Milano, Bologna, 12 ore dopo, non solo noi ma 1000, 2000, 10.000 persone pacifiche ma non tanto si mobiliteranno, e qualcuno comincia ad avere paura, perché la paura fa bene. Torna lo spettro della marcia su Roma dei padani armati di fucili, che già Bossi ha evocato milioni di volte. Poi non abbiamo visto per fortuna mai nemmeno un'arma a giocattolo, per fortuna. Però questa volta non si evocano le armi, ma si evocano 2.000, 10.000 padani, persone pacifiche ma arrabbiate perché si toccano i leghisti. Sul futuro del Piemonte ci sono due ipotesi. Crosetto, scrive la Stampa, pronto a correre con il centrodestra se si vota a maggio. Poi c'è un'intervista a Oscar Farinetti, piemontese anche lui, fondatore di Italy, astro nascente del centro-sinistra, che dice: primarie inutili, la sinistra punti su Chiamparino, che si è candidato proprio in questi giorni a ridosso della poche ore dopo, insomma, la decisione del TAR di annullare le elezioni del 2010. Un'occhiata anche agli altri giornali, per esempio Repubblica titola sul ministro dell'agricoltura De Girolamo: il Partito Democratico all'attacco, ecco le nuove carte che accusano il ministro. Una vicenda che si trascina da qualche giorno. Vediamo, si torna a parlare di rimpasto. Sono diversi i ministri in bilico in questa giostra, nella lista, una lista in cui si è aggiunta appunto anche la De Girolamo, l'interessata, che non risulta indagata. Ieri ha ammesso di aver sbagliato nell'usare espressioni poco eleganti, anche se ha detto: le ho usate in casa mia e sono state registrate abusivamente e illegalmente. Poi però c'è anche quest'altra sostanza qua. Amici, ex fidanzati, esperti di cinema, al ministero i fedelissimi di Nunzia. Il cerchio magico è composto in toto da Sanity Doc e il PD denuncia la moltiplicazione delle poltrone. C'è il fidanzato storico e il capo del papà, il suo commercialista e l'amica del cuore. È il cerchio magico di Nunzia De Girolamo, leggiamo. Un piccolo esercito di fedelissimi, tutti Sanity Doc, che la ministra si porta sempre dietro dovunque vada. A nulla è servita l'interrogazione dei capigruppo democratici in Commissione Agricoltura di Camera e Senato, che hanno chiesto basta con la moltiplicazione degli incarichi negli enti e nelle società vigilate dal Ministero, ma neanche la censura della medesima Commissione tutta a Montecitorio, che ha raccomandato al Ministero, al Ministro, a De Girolamo, la valorizzazione del personale interno. È una vecchia questione, ogni volta che c'è un cambio di Ministero si assumono consulenti, collaboratori pescati da fuori anziché dall'interno. E si dice perché sono risorse importanti, poi si scopre che sono parenti, amici, ex fidanzati, autisti, portaborse. È successo un po' a tutti, è una storia che va avanti da sempre, e questa volta tocca al ministro De Girolamo. Il Fatto Quotidiano titola sull'Abruzzo: L'Aquila, tangenti sul terremoto, assessori sciacalli e Cialente si dimette per quello che ha fatto il suo vice, però ha detto: sono stato sconfitto anch'io. Direi che è tempo di dare la linea al traffico e di tornare tra pochissimo, restando in edicola e andando però a curiosare tra le pagine dell'inserto culturale, il domenicale del Sole 24 Ore. Tra poco. La mia ricetta è quella che si potrebbero risparmiare molti soldi dagli affitti. cioè ci sono degli uffici pubblici dove si potrebbe benissimo utilizzare strutture dello Stato anziché pagare gli affitti, e la riduzione delle spese non va fatta a taglio del personale, ma bensì al risparmio delle spese sugli immobili. Grazie. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Ah, eccomi! Finalmente! Hai preso tutto? Sì. Lampada, tappeto, il tavolino. E le lampadine? Amore, ero stanco. E quindi? Ho preso un divano. Con gli sconti IKEA fino al 40%, portate a casa qualcosa in più. E se siete soci IKEA Family o IKEA Business, vi aspetta un extra sconto del 10% su tanti articoli già scontati. Per date e modalità, visitate IKEA.it. Strade in diretta. Buongiorno, il traffico al momento scorre regolare sulla rete autostradale. Attenzione però sulla 12 Genova-Livorno, si circola sulla sola corsia di sorpasso tra Sarzana e Carrara in direzione Livorno a causa di un incidente tra due veicoli. Mentre sulla tangenziale di Napoli è segnalato un veicolo fermo in prima corsia tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. La nebbia condiziona gli spostamenti sulle pianure del nord e nelle vallate appenniniche. La visibilità è al di sotto dei 100 metri, in alcuni tratti anche molto fitta. Infine segnaliamo la chiusura sulla 24 Roma Teramo per lavori dello svincolo di Teramo Ovest in entrambe le direzioni. La riapertura è in programma per le 18 di domani. È tutto, appuntamento tra mezz'ora. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci qua, cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi e ben ritrovati. Come anticipato, restiamo a guardare i giornali di oggi, restiamo dunque in edicola, andiamo a sfrucugliare anche oggi tra le pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale, curato, redatto e preparato come ogni settimana dalle sapienti mani del direttore Armando Massarenti. Armando, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Dopo una pausa, insomma, non ci siamo sentiti in questi giorni così di vacanza. Oggi è la prima domenica che torniamo in diretta. Cari ascoltatori, se siete lì che vi state facendo la barba o bevendo il caffè e ripensate al cinepanettone che avete visto ieri al cinema, ecco, sappiate che potete redimervi, potete cambiare strada, cambiare verso anche voi. C'è un'altra cultura che è meno di intrattenimento, più alta, vi aiuta a rispondere forse alle domande: chi siamo, dove stiamo andando. Il domenicale lo fa ogni domenica, cercando di affrontare sfide complesse ma anche con facilità e, perché no, con allegria. E Armando Massarenti, oggi su che cosa ci vuoi guidare dell'inserto di oggi? Beh, intanto un po' di intrattenimento ce l'abbiamo, ecco, anche noi, vedi. Per esempio, due cose letterarie piuttosto belle. Una è Marta Morazzoni, di cui anticipiamo un libro, sì, molto interessante, e molto un romanzo su Giovanna d'Arco, in cui riprende la famosa eroina di Francia e fa una narrazione che va contro tutta una serie anche di stereotipi. È un'anticipazione di un libro che sta per uscire per Guanda, ma soprattutto vediamo Francesco Guccini, il cantautore famoso, che scrive dei pezzi deliziosi. Questa volta ci propone, tu dicevi, voi magari vi state facendo la barba, lui si ricorda come erano fatti i barbieri una volta, e sta per uscire, fra un mese uscirà il dizionario delle cose perdute numero 2, diciamo il nuovo dizionario delle cose, sì, perdute. Era stato un grande successo editoriale quello precedente, e lui sta scrivendo nuovi brani, e questo è davvero, ve lo consiglio. Questo gustoso viaggio nelle cose che non ci sono più e che però sono, sì. E oggi noi pubblichiamo questa descrizione dei barbieri di una volta, che è davvero, davvero esilarante, con tutta l'ironia e la capacità di farci divertire del miglior Guccini, quello, diciamo, di un po' di opera buffa, non so se ve lo ricordate, certo, un disco molto divertente dove raccontava addirittura la creazione del mondo. Ecco, qui c'è quella nostalgia anche, ma soprattutto una descrizione minuziosa di come si faceva la barba, e di, anche se lui dice che non aveva bisogno, ma già, perché lui ha sempre avuto una barba lunga, però insomma, barba lunga. I barbieri, quindi la descrizione di Guccini oggi, non perdetevela sul domenicale. I calendarieri e tutte quelle cose divertenti che non ci sono più. Ecco, però passando invece a cose, sì, più serie, Io vorrei segnalare che noi stiamo continuando, anche tra l'altro Matteo Renzi, il segretario del PD, ci ha dato retta, perché domenica scorsa avevo lanciato questa idea di riformare il Senato proprio nella direzione della conoscenza, della cultura della conoscenza, insomma il nostro tema del nostro manifesto per la cultura, certo, che abbiamo trattato con gli Stati Generali. Questa settimana facciamo un certo numero di pagine, sono improntate a questo, a partire dalla copertina. La copertina è di Salvatore Settis, questo grande studioso, che parla di che cosa? Fa un bel esperimento, cioè ci propone il giuramento di Vitruvio, cioè Vitruvio, il famoso architetto dell'antichità, e lui immagina che oggi gli architetti, per evitare una serie di scempi ambientali, ma anche per evitare delle costruzioni malfatte, dovrebbero inventarsi un solenne giuramento tipo quello che fanno i medici con il giuramento di Ippocrate. Certo. E questo giuramento cosa serve? A unire delle competenze, ma anche con una consapevolezza etica molto forte. Ecco, questo va molto nella direzione di quello che noi andiamo dicendo, appunto proponendo che il Senato, invece di essere abolito o diventare soltanto una Camera delle autonomie, debba diventare una camera della conoscenza, una camera delle competenze, una camera del sapere per saper fare, così abbiamo detto, e appunto per quanto riguarda gli architetti, poi tra l'altro sapete che uno dei senatori a vita è proprio Renzo Piano, che è appunto un grandissimo architetto. Ecco, però dentro, questa è la copertina, questa di Salvatore Settis, che riceverà una laurea honoris causa appunto in architettura che gli ha conferito il ministro Carrozza. Poi all'interno abbiamo tutta un'elaborazione proprio di questa idea, rispondendo anche un pochino al modo in cui Matteo Renzi ha accolto e vuole addirittura, insomma, che martedì ci sia un confronto con i senatori proprio su questa idea, che lui unisce però alla sua idea delle autonomie. Insomma, vediamo che come il dibattito andrà avanti. Proponiamo due pagine molto ma anche abbastanza, diciamo, varie dal punto di vista dei temi. Norberto Bobbio, per esempio, di cui c'è stato il decennale della morte qualche giorno fa, il 9 gennaio, è un autore a cui noi ci siamo particolarmente ispirati, per esempio attraverso un libro famosissimo, il suo primo bestseller addirittura del 1955, che era Politica e Cultura, dove è descritto molto bene qual è il problema di una politica che non faccia riferimento alla conoscenza, all'accertamento dei fatti, alle buone argomentazioni critiche, che poi sono quelle che ci vengono da una filosofia seria come era quella che ci ha proposto per tanti anni Norberto Bobbio. Quindi ricordiamo Norberto Bobbio proprio in questo senso. C'è un ritratto molto bello che gli fa Mario Ricciardi, mettiamo una citazione, un piccolo brano che sembra scritto veramente per i nostri giorni, per risolvere i nostri giorni, proprio sul rapporto politica-cultura. Cioè, una politica che non fa riferimento alla conoscenza e non può che essere completamente cieca, che non sappia far riferimento proprio alle modalità con cui noi conosciamo, che sono modalità di verifica dei fatti, ma anche modalità di pensiero critico. E vedremo poi anche gli sviluppi poi di questi incontri. Tienici aggiornato, Armando, perché è importante se il domenicale tu e insomma tutta la forza culturale che c'è dietro riuscite a entrare nel dibattito politico con questa proposta, è davvero interessante. Quindi mi raccomando, tienici aggiornato sugli prossimi step, come direbbe Renzi. Devo ricordare un'ultimissima cosa, sì? che saremo proprio protagonisti, ma in realtà è organizzato dalla Commissione Igiene e Sanità, martedì un secondo incontro, ecco, proprio all'insegna del Senato della Conoscenza. Proprio saremo in Senato, Sala Zuccari, si discuterà di un tema delicatissimo, cioè la legge sulla sperimentazione animale, cioè cosa ci possono dire gli scienziati, certo, su una legge che purtroppo, appunto, come questi incontri hanno proprio questo tema, no? Cioè come mai alcune leggi che sono state fatte recentemente non hanno tenuto abbastanza in considerazione l'opinione degli esperti e probabilmente sarebbero state fatte meglio. Certo, una discussione molto delicata questa, e speriamo che non ci siano incidenti di percorso, perché talvolta sappiamo che in questi giorni gli animalisti hanno hanno appunto anche dimostrato di essere abbastanza violenti, ma sono delle aggressivi, piccole frange, aggressivi nonostante le premesse che invece dovrebbero essere di altro tipo, ma insomma poi ognuno è libero di manifestare, di assoluta capacità di comprendere i problemi, di capire che cos'è la ricerca oggi e di capire che certi eccessi che loro denunciano non esistono più l'importante è essere disposti a confrontarsi, non avere tesi integraliste come appunto ricordavi tu a volte accade, ma anche atteggiamenti così di manifestazioni un po' aggressive appunto. Armando, abbiamo ancora un paio di minuti prima di chiudere, se ci vuoi ingolosire con qualche altro contenuto, abbiamo già detto cose interessanti perché già questi tre nomi di peso che hai speso, Bobbio, Guccini e Settis, insomma già viene voglia di andare in edicola subito, a me personalmente per Guccini, però abbiamo ancora un minuto per chiudere. Quello di Guccini è sicuramente un brano di una veramente di un'ironia, di una capacità anche di scrittura e di narrazione, ma il supplemento è straricco. Anche oggi possiamo ricordare due cose, un excursus che fa il nostro Gino Ruotti sugli aforismi francesi, Baudelaire, Rimbaud e molti altri, fino ad arrivare a questo delizioso di Paul Valéry che fa una specie di variazione cartesiana e dice a volte penso, a volte sono, no? Al contrario di Cartesio. Di Cartesio che appunto diceva penso dunque sono. E che poi è una variazione poi ci sono altre considerazioni sempre di carattere filosofico, anzi più che filosofico direi segnalerei questo, il libro di Bourdieu sugli accademici. Ecco, prima abbiamo fatto un elogio della sapienza, della possibilità di conoscere, c'è un bel articolo invece su un libro che è una critica invece dell'homo academicus del famoso intellettuale francese appunto Pierre Bourdieu. E poi che dire, ci sono. Va bene, a questo punto direi Armando che ci dobbiamo salutare perché siamo in chiusura, tra poco c'è il giornale radio. Grazie per essere tornato con noi anche nel 2014, buona domenica e a presto. Grazie. Armando Massaretti, buona domenica a tutti, grazie. Ciao. 800 24 00 24, cominciate a prenotare i vostri interventi perché subito dopo il giornale radio torniamo e naturalmente accogliamo anche i vostri interventi, cari ascoltatori, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, dunque seconda parte dopo il GR delle 9. Adesso cominciamo subito anche ad accogliere i vostri interventi, potete commentare quello che avete sentito, 800 24 00 24, potete continuare come abbiamo fatto anche ieri a raccontarci che cosa ha reso bella la vostra settimana. Anche se oggi il contest che facciamo è la messa in palio di due biglietti, anzi quattro, due biglietti a persona per una importante mostra che adesso vi andrò a raccontare a Villa Panza, una mostra organizzata dal FAI, è legato al personaggio della settimana. Come ogni domenica riprendiamo anche oggi, prima domenica del 2014, con Si può fare, il primo indizio ve lo sveleremo tra poco, si vincono appunto i biglietti per la mostra Aesthesis alle origini delle sensazioni, Robert Irwin e Jane Starrell a Villa Panza in provincia di Varese, una mostra che è inaugurata il 27 novembre e ci sarà fino al 2 novembre del 2014. Tra poco altri dettagli, tra poco anche il primo indizio per indovinare il personaggio, eh? 800 24 00 24, ma ci sentiamo subito dopo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Intanto il primo indizio per quanto riguarda il personaggio della settimana è un grosso personaggio internazionale e non è italiano. Tra poco naturalmente vi daremo altri dettagli. 800 24 00 24, il primo indizio è un grosso personaggio internazionale, non è italiano. Adesso però vogliamo parlare di scuola, perché insomma è stata la settimana nella quale gli insegnanti hanno tremato perché hanno pensato di dover restituire i soldi al Ministero dell'Economia per quella nota questione. Poi c'è stata la retromarcia dopo che il ministro Carrozza è intervenuta del governo, il ministro Saccomanni ha detto va bene, non dovete più restituirci niente. È un po' la vecchia questione che sulla scuola si tira, cerca di tagliare la spesa perché è una delle voci di spesa più grosse del bilancio. Giusto o sbagliato che sia, giusto, perché comunque la scuola è un pezzo grosso del nostro Stato, è uno dei servizi più importanti, a volte se ne parla bene, a volte se ne parla male, ma la notizia da cui partiamo invece è questa, che secondo il rapporto della casa editrice Pearson pubblicato dal settimanale The Economist, nonostante tutto quello che si dica, quello che conta davvero nella scuola sono proprio gli insegnanti. Cioè non è tanto l'intervento sulle tecnologie, sì, i computer, le aule, la modernità, tutto quello che volete, ma alla fine quello che conta è la qualità degli insegnanti. In questo rapporto si parla anche dell'Italia e si cita nel bene una scuola calabrese, una regione che invece normalmente si distingue per primati negativi. Allora noi abbiamo convocato la preside della scuola Alessandro Volta di Reggio Calabria, Angela Maria Palazzolo, buongiorno. Buongiorno. Intanto, prego, voleva esordire subito dicendoci un saluto. Sì, esordisco dicendo che sono perfettamente d'accordo con quanto appunto il rapporto Pearson ha evidenziato. Una buona scuola si distingue proprio per la qualità degli insegnanti e per come gli insegnanti insieme riescono a progettare, programmare interventi didattici adeguati ai bisogni del territorio. Può sembrare, allora, sì, mi scusi se la interrompo, sì, voglio fare un piccolo inciso, una piccola premessa, sì, poi naturalmente la faccio continuare a parlare. Può sembrare strano, paradossale, perché in questi anni ci siamo sentiti spesso dire nella scuola non è vero che si spende poco, si spende abbastanza, si spende troppo, soprattutto si spende solo per il personale. Questo solo per il personale era sembrato quasi un'accusa. Adesso però che innanzitutto sappiamo che gli stipendi degli insegnanti non sono certo stipendi da favola, sappiamo che voi formate le future classi dirigenti, sì, ricevendo, sì, stipendi non da favola, adesso questo rapporto rimette al centro la figura degli insegnanti, addirittura dicendo appunto che siete quello che conta di più nella scuola, e quindi insomma questo per fare una piccola riflessione anche culturale su come abbiamo impostato il dibattito in questi anni. Intanto però le voglio chiedere, quando lei ha saputo che eravate citati dall'Economist, sì, in questa cosa qua, lo sapevate, erano venuti a intervistarvi o è rimasta, sì, sorpresa? No, abbiamo avuto un reportage, siamo rimasti sorpresi perché sono stati individuati i nostri dati, i risultati appunto delle prove di valutazione degli allievi che hanno capovolto quelli che sono i primati negativi nei test in generale che il Mezzogiorno d'Italia in qualche modo ogni volta attesta. Ma siamo rimasti sorpresi, ma nello stesso tempo siamo rimasti gratificati perché la scuola è molto impegnata su questo piano delle risposte culturali e quindi è molto impegnata su progetti di innovazione didattica, su progetti di innovazione di potenziamento del curriculum, ma è anche impegnata a una sorta di autovalutazione. Per quanto riguarda, sì, invece gli investimenti che, sì, appunto l'Italia e il nostro governo insomma da anni sì, è solo un luogo comune questo che comunque gli insegnanti lavorano poco perché lavorano solo 18 ore, quindi sono super pagati, che gli investimenti sulla scuola sono investimenti passivi. Assolutamente io ritengo che un paese se vuole veramente promuovere il proprio sviluppo, e noi ne abbiamo veramente bisogno in una lettura internazionale della realtà economica e culturale, sì, italiana, deve investire ed investire in maniera oculata sulla scuola e sulla formazione dei docenti. Va bene, bene, però sì, adesso questo poi mi sembra anche un giusto però manifesto che abbiamo sentito anche altre volte. Invece lei vorrei che ci raccontasse, per dare proprio valore a questa vostra esperienza, quali sono le esperienze che voi fate, che realizzate in questa scuola? Perché lei pensa vi siete meritati questa citazione in questo rapporto? Cosa vi distingue per esempio dalle altre scuole della regione o anche dalle altre scuole d'Italia e che vi fa appunto meritare questo titolo di eccellenza? Anche perché vorrei poi l'opinione degli ascoltatori all'800 24 00 24. Ascoltate bene, cari amici insegnanti all'ascolto, o cari amici semplicemente genitori che avete figli a scuola, perché stiamo parlando con la preside di una scuola di eccellenza, e adesso ci racconterà perché questo può accadere e come, proprio mettendo al centro la figura degli insegnanti, il rapporto con gli alunni naturalmente. Perfettamente. Noi abbiamo iniziato con una progettazione collegiale condivisa, pertanto i docenti fanno squadra in merito agli obiettivi che abbiamo insieme delineato, obiettivi che passano attraverso l'innovazione didattica, come dicevo un po' anzi, ma parallelamente anche attraverso una formazione costante del docente. Una formazione costante del docente sulle nuove tecnologie, sull'utilizzo delle lingue nell'insegnamento, quindi della metodologia CLIL, cioè che consente appunto di insegnare una disciplina specifica in una lingua straniera, ma ancora quindi fate un utilizzo, mi scusi, della lingua straniera diverso da quello che fanno le altre scuole, cioè la usate di più? No, noi per esempio applichiamo abbiamo un insegnamento fisica, insegniamo fisica in spagnolo già nelle prime classi. Fisica in spagnolo? Sì, direttamente fisica in spagnolo. Questa è la metodologia CLIL, che comunque con i nuovi ordinamenti diventa obbligatoria al quinto anno, quindi al quinto anno della secondaria di secondo grado. Noi l'anticipiamo già, per esempio applichiamo, quindi si insegna una disciplina in un'altra lingua. E questo qual è il valore aggiunto di questa operazione? Cosa porta? Il valore aggiunto di questa operazione è che comunque consente intanto agli studenti di acquisire una mentalità diversa, di comprendere che i codici linguistici, che attraverso i codici linguistici noi possiamo approcciare a discipline specifiche, e quindi che comunque apre culturalmente il soggetto, il discente, ad esperienze che sono di carattere più internazionale, quindi non solo l'apprendimento, quindi laboratoriale della lingua, bensì l'applicazione della lingua stessa in una disciplina diversa. Può essere fisica e spagnolo, ma può essere anche, noi applichiamo per esempio la fisica allo sport, per cui ecco, quindi potrei dire con un'espressione così giornalistica o banalizzante, un effetto spiazzamento, cioè spostare l'insegnamento di una lingua in un contesto nuovo, oppure della fisica in un contesto come quello dello sport, e creare quindi un'attenzione diversa da parte dello studente sicuramente rispondere a un bisogno diverso, ecco, di motivazioni, di interessi, per cui anche, ripeto, un altro le vorrei aggiungere questo, per esempio noi cerchiamo di far sì che tutti gli apprendimenti degli studenti possono essere inseriti in contesti reali e quindi trasferibili poi da una realtà all'altra, per esempio matematica applicata alla realtà. Siamo in collaborazione con l'Università di Perugia, stiamo realizzando un corso di formazione per docenti su matematica e realtà, ma poi questo corso di formazione avrà anche un momento di laboratorio con gli studenti. Senta, preside, però per mettere in campo queste iniziative, come voi fate, lei da quanti anni è preside di questa scuola? Io sono qui da 2 anni. Quindi sarà un metodo che c'era anche prima di lei? No, diciamo che abbiamo fatto squadra per una necessità anche di competizione, nel senso di innovazione, perché sa, la scuola dell'autonomia o si innova o insomma ha da rispondere alla, come, alla soddisfazione degli utenti in maniera chiara. Essere competitivi significa dare delle offerte di qualità e anche delle offerte che abbiano un'identità chiara. Sì, quindi insomma la, l'autoscuola dell'autonomia, lei dice, ci ha dato anche questo incentivo in più a, a competere, a migliorarci. La però la domanda, mi scusi, la domanda è questa, sì, naturalmente, ma la domanda è questa: perché voi realizzate queste cose secondo lei, secondo il suo punto di vista naturalmente, e invece in altre scuole no? Cioè qual è la differenza? Ci sono insegnanti più motivati, si è sparsa la voce, vengono tutti lì, lei è una motivatrice, che cosa? No, credo che molto dipenda dalle strategie dell'organizzazione e della programmazione. E chi le fa queste strategie? Le chiedo scusa. Si tratta di fare un'analisi dei bisogni, un'analisi del contesto, capire quali sono le risorse che ci sono in campo e dove orientare. Ecco, e questo, dove orientare l'offerta, e quindi questo, una volta che diventa, diciamo, una scelta condivisa, sì, e quindi una scelta condivisa con le competenze che ci sono in campo professionali, può dare questi risultati. Cioè voi fate tanti incontri, tante riunioni, tante assemblee tra di voi insegnanti. Noi facciamo sì, noi abbiamo una, e stabilite dove andare, che cosa fare, e poi certo, riuscite a farlo. Questo, diciamo, date continuità a una progettazione che a cui tenete molto. Forse è una progettazione a medio, a breve, a lungo, a breve, a medio e a lungo termine. Ecco, forse quello che lei ci sta, mi scusi, direttiva. Forse quello che lei mi sta dicendo implicitamente è che magari in altre scuole si trascura un po' questo fatto di dare una conseguenza pratica poi alla progettazione. Cioè si fanno magari anche lì delle riunioni, poi però le cose rimangono un po'. No, le riunioni, vede, nella scuola è importante, sì, che si costruiscano curriculi di senso e soprattutto si esca fuori dai luoghi comuni delle riunioni che siano non costruttive. Brava, bisogna brava. Fare riunioni costruttive, concrete, e soprattutto darsi delle, degli step di valutazione. Cioè anche il docente ha bisogno di sentire che quello che fa è in qualche modo riconosciuto, gratificato, valutato. A proposito di gratificato, di valutato, poi ci salutiamo, le voglio chiedere una cosa sulla cosa di questa settimana, dell'attualità. Cosa vi siete detti tra voi insegnanti quando è sbucata fuori la possibilità di dover restituire questi soldi? Dire la verità, non si era mai vista una roba del genere, nemmeno fuori dalla scuola. Voi fate già delle rivendicazioni salariali in genere, perché appunto, sì, ripetiamo, non si guadagna molto nella scuola. C'è stato qualche tentativo di suicidio? No, guardi, purtroppo il docente ha nel DNA una resistenza a una purtroppo mancata rendicontazione sociale del suo agire. Però questa è stata l'ennesima delusione e la consapevolezza di continuare a credere che comunque nessuno riconosce realmente il lavoro del bravo docente, del docente che esula dagli obblighi contrattuali, perché vede, tutto questo molto spesso si riesce a fare grazie a una sorta di volontariato, sì, per cui, perché non sono chiaramente l'eccellenza, lei non riesce a raggiungerla con le 18 ore del contratto nazionale collettivo, non sono le 18 più le 40 ore aggiuntive, ma molto spesso i docenti dedicano il va loro bene tempo, e va quindi bene, questa delusione sarebbe stata veramente, meno male che è andata così, perché doveva andare così, era giusto che non accadesse che quello che era così stato paventato. Grazie e complimenti. Grazie a voi dell'Istituto Volt, complimenti Volta, perché guardi, questo, sì, il vostro motto, sì, cioè il titolo della vostra trasmissione, è possibile, è proprio quello che è stato per sempre il mio motto, è possibile in ogni realtà, in ogni circostanza, poter offrire anche nella scuola pubblica e soprattutto nella scuola pubblica una qualità, con basta soltanto mettere insieme più cose. Buon complimenti e buona continuazione. Grazie e complimenti a voi, così ci siamo incensati interessati a vicende. Questa era la preside della scuola Alessandro Volta di Reggio Calabria, Angela Maria Palazzolo. È inserita la sua scuola all'interno del rapporto Pearson pubblicato dal settimanale The Economist la scorsa settimana, no, due settimane fa, come una scuola d'eccellenza in un panorama nel quale a fare la differenza, sempre parola di Economist, sono gli insegnanti. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno a Carlo Gabardini. Ciao Carlo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Com'è andata ieri l'esordio del tuo spettacolo? No, il debutto, scusami, dello spettacolo bene. Che hai scritto insieme a Walter Leonardi. Molto bene, benissimo. Si vede dalle mie occhiaie, per quello che me lo chiedi. Ah, potevo non dirlo, tu dici. Siamo in radio. Non si vede in radio. Mi piace che tutte le volte c'è la faccia di Alessio che mi guarda come per dire: Carlo, sei in radio. No. Cioè, occupati di questo, particolare. Ma molto perché? Bene, molto bene. C'erano quasi 500 persone di pubblico, quindi abbiamo fatto il tutto esaurito. Siamo felicissimi, contentissimi e replichiamo oggi alle 17 sempre al Teatro Leonardo a Milano in via Ampera. Beh, parliamo di cultura, no? Spesso, esatto, e quindi diciamo, diamo anche questi appuntamenti che ti riguardano. No, non volevo dare l'appuntamento, era giustamente per giustificare le mie occhiaie assolutamente non radiofoniche. Ecco. Hai sentito l'insegnante, la preside? Certo che sì. Una bella esperienza, la scuola Volta di Reggio Calabria, citata dall'Economist. Certo, i presidi restano presidi, hai sentito come parlava tutta un po' così, no? I presidi sono, insomma, sì. Ma secondo me fanno anche un esame di voce, è un po' come sì. Gli attori. D'altronde il preside è giusto, deve avere un certo tipo di voce, anche un certo tipo di cadenza. È un po' come recitare una parte, anzi sicuramente. È proprio un po' come recitare una parte, assolutamente. Tra poco sentiremo anche il ministro della cultura Brai, quindi... quindi siamo un po' nel tuo campo. Mi tolgo le occhiaie, sì, giusto? Certo. Rendiamoci presentabili. Assolutamente, sarà fatto. E invece hai qualcosa da presentarci quest'oggi? Sì signori, ho una bella notizia che mi è piaciuta, che si svolge a Salò, dove il parroco di Salò, il Monsignor Francesco Andreis, alla fine della messa celebrata il 31 dicembre, quindi la messa di Capodanno, ha donato una banconota da 50 euro a tutti i fedeli presenti. E uno dice, ma sarà stato fatto perché c'erano pochi fedeli? La mancetta, no? No, 200 presenti, quindi questa operazione è pure costata 10.000 euro al parroco. Alla faccia. Il bello dell'azione è il fatto che lui ha detto: prendete questi soldi e dateli a chi ne ha davvero bisogno. Avete qualche giorno di tempo per riflettere e decidere a chi donarli. Quindi diciamo, di solito è il contrario, perché alla messa solitamente si pigliano i soldi, si mettono nella busta sotto Natale e si consegnano al parroco, mentre qua è il parroco. E mi sembra interessante questa operazione, diciamo, di mettere alla prova, perché non so, mi ricorda quando mio padre mi dava 1.000 lire da dare o in chiesa o a un mendicante, che c'è quel momento in cui i soldi ti passano in mano e tu dici: beh, adesso sono miei e adesso scelgo io. Sì, magari posso semplicemente, facciamo più i buoni, posso scegliere se darli a quel mendicante piuttosto che a un altro. In realtà ti vengono dati con un compito e quindi mi sembra un bel momento quello dove ti arrivano i soldi, tu li devi dare e hai, diciamo, un problema con la tua coscienza, diciamo. Una responsabilizzazione da parte di questo parroco di dove? Di Salò. E dopodiché devo dire che mi sono incagliato in questo articolo dell'Espresso, sì. Che si intitola Politica e Casta, un anno da dimenticare, le 100 dichiarazioni peggiori del 2013. Mamma. Ed è veramente interessante, sono assolutamente diciamo le dichiarazioni di coloro che ci rappresentano in questo paese, ed è interessante visto che siamo in un paese che ama molto dimenticare. Ovviamente non ve le posso leggere tutte, ma un paio vorrei leggere. Vuoi farci venire un po' di bile, va bene. Sì, tipo Giuliano Amato, l'ex presidente del Consiglio, che il 7 maggio del 2013 ci spiegò così: il prelievo forzato ai conti correnti degli italiani del 1992, che diciamo noi che lui, esatto, sì, ben ricordiamo, nasce da un equivoco. Dissi all'allora ministro delle finanze Goria di lavorarci su e sentire il parere di Ciampi. Il mattino dopo ci fu l'equivoco. Mi sembrò che Goria con la testa mi dicesse di sì quando chiesi se Ciampi era d'accordo. In realtà Ciampi non l'aveva neanche sentito e la misura passò. È vero, questa frase di Amato in quei giorni suscitò una certa scalpore, poi è passato nel dimenticatoio, però vent'anni dopo scopriamo che quella cosa è avvenuta. È il prelievo incredibile, forzoso, quasi esatto, per come avvengono per le cose, come si cambia la storia. Chissà. se poi è andata davvero così. Vabbè. O per esempio Luca Zaia, governatore del Veneto, che volle il 4 aprile del 2013 con questa dichiarazione, volle censurare le previsioni meteo perché erano molto negative sulla regione Veneto, e disse: si oscurino le previsioni meteo per il Veneto e procederemo, oppure procederemo per danni. Lanciamo un appello perché questi signori ci cancellino dalle previsioni del tempo, che facciano un'area tutta nera, non ci importa nulla. Torniamo alla semplicità, come il Papa che dice buonasera. Vabbè, Zaia ne ha fatte parecchie. Senti, però io ti propongo una cosa, se sì, ne hai altre ce le teniamo per dopo, perché va nel bene, frattempo abbiamo un ospite importante che ci ha già raggiunto, l'avevo anticipato, il ministro per i beni culturali Massimo Brai. Buongiorno. Buongiorno. Che ritroviamo molto volentieri, abbiamo diverse cose da commentare insieme a lei, dalle sviluppi della vicenda di Pompei, dove ci sono state le attese nomine, anche se manca ancora forse qualche tassello, la squadra deve essere formata eccetera, la reggia di Carditiello per restare in Campania, che tra l'altro ha avuto anche purtroppo il lutto il 26 di dicembre del custode volontario, l'angelo di Carditiello, lei l'aveva incontrato, aveva fatto delle promesse, non tanto a lui quanto credo un po' a tutti gli amanti dei beni culturali, che sono state mantenute, la reggia è stata acquisita. Poi ci sono i bronzi di Riace, tra l'altro, vogliamo partire da qua? Benissimo, partiamo dai bronzi, sì, di Riace, perché credo appunto che sia stata un'operazione importante, un'operazione che ha dimostrato come, se noi riusciamo a fare sistema, se noi riusciamo a mettere insieme quelle che sono le parti migliori, che sono tante di questo paese, intorno ai bronzi hanno lavorato i tecnici del Ministero per completare il restauro e per fare in modo che dal luogo del Consiglio regionale, dove erano dal 2009, potessero tornare in anticipo nel museo destinato ad accoglierli. Un museo che è stato restaurato, che è stato costruito da Piacentini tra il 1932 e il 1941, un museo bellissimo. Se noi abbiamo valorizzato il lavoro dei giovani ricercatori dell'Enea, che hanno preparato le basi antisismiche dove i bronzi sono stati collocati, ecco, poi non mi meraviglio se tanti turisti, tanti calabresi, tanti italiani hanno incominciato a mettersi in fila per visitare i bronzi. E ancora una volta il segno che se manteniamo gli impegni, se facciamo questo nel rispetto del valore dei beni culturali, credo che si possa ricostruire quella fiducia che in questi anni è venuta meno tra chi ha le responsabilità politiche e i cittadini. Senta, la questione però che credo che qualunque ministro per i beni e le attività culturali guardi sempre con timore, ma anche come la più grossa scommessa, è sicuramente quella di Pompei. Ci sono tanti beni, naturalmente l'Italia ha un patrimonio immenso, però Pompei è fondamentale proprio per lo stato di, insomma, di difficoltà, a volte di degrado che abbiamo visto, per non dire di abbandono, ma non voglio stuzzicarla per dire che non è così, perché sappiamo purtroppo dalla cronaca che invece è spesso e volentieri così. Allora, lei aveva promesso, c'è stato il decreto dell'estate, le nomine sono arrivate forse con qualche giorno di ritardo. Nistri, ex generale dei Carabinieri della tutela del patrimonio, direttore, adesso direttore del grande progetto Pompei, e poi Fabrizio Magani, che sarà vice ed è l'ex sovrintendente regionale d'Abruzzo, è sì, così, direttore dell'Abruzzo, impegnato appunto nel progetto L'Aquila, sì. E voglio dire, perché come dire, vorrei che come dire, si ricordassero anche queste cose positive, che L'Aquila, il mio ministero, non ha un giorno di ritardo nei restauri, sì. E la scelta fatta sin dall'inizio dal ministero era di riportare al più presto i cittadini al centro di L'Aquila, cioè di quelle zone sotto, sì, la nostra responsabilità, procedendo a questi restauri, perché siamo convinti che L'Aquila è una città che deve vivere nel suo centro storico. Vabbè, adesso ci sarebbe da entrare nella cronaca purtroppo delle inchieste sulle tangenti per la ricostruzione, negli aspetti diciamo della ricostruzione ordinaria, ma non c'entriamo perché non è argomento di questa intervista, che non è neanche sua competenza tra l'altro. Invece, parlando di Pompei, adesso però c'è una corsa contro il tempo, perché devono essere spesi questi 100 e rotti milioni di euro entro il 2015, sono fondi europei, mi dica se sbaglio io o se è così, e quindi bisogna accelerare, bisogna che lei deve ancora nominare però la squadra che coadiuverà questi due, il direttore e il vice direttore, manca ancora questo? No, allora noi abbiamo fatto le nomine il 9 dicembre esattamente in tempo come la legge prevedeva. Sì. Il Presidente del Consiglio Letta ha firmato venerdì il decreto appunto di nomina che era necessario. Ci ha messo un po' troppo? Ci ha messo un po' troppo, guardi, io credo che noi dobbiamo dire la verità, alcune procedure di questo paese vanno sicuramente accelerate perché non è normale che tutti noi aspettiamo a volte così tanto tempo per avere una risposta. Beh, quasi forse un mese, poteva, in effetti. Forse si sì. poteva fare prima. Ecco. E adesso sono subito partiti, è partito l'interpello che si è concluso proprio in questi giorni per la nomina del sovrintendente di Pompei, quindi il direttore sì. generale individuerà nei curricula ricevuti il nuovo sovrintendente e nello stesso momento partono gli interpelli per i 20 che affiancheranno il generale Nistri e il direttore Magani in questo lavoro che andremo a fare. Scusi una cosa però, cosa intende per interpelli? Perché appunto noi pubblichiamo sul sì, sito del ecco. nostro ministero come funzionano queste nomine sia verso il personale dell'amministrazione sì. Del ministero ma anche dell'amministrazione pubblica di chi abbia interesse e un curriculum, quindi le candidature per poter partecipare, dopodiché viene fatta una selezione. Ma voglio dire appunto che lei ha ragione, l'impegno è veramente grande ed è una grande sfida quella di portare a termine anche perché lavori. Ho detto bene che se non arriviamo entro il 2015 rischiamo di perdere questi fondi europei che sono tanti? Non rischiamo di perderli perché come dire, tutto quello che stiamo facendo ovviamente sarà documentato e in molti casi noi proveremo a lavorare in parallelo su queste gare, cioè di non farne una dopo l'altra ma di farne tante, perché sono tante gare d'appalto per vari aspetti, ricostruzione, ristrutturazione, manutenzione, c'è di tutto, quanti cantieri dovranno essere aperti? Sorveglianza, adesso noi stiamo cercando anche di studiare col generale Nistri e con Fabrizio Magani il modo per poter accorpare alcune gare, perché ovviamente sì. I tempi sono brevi. Voglio anche dire che noi abbiamo la responsabilità di tutta l'area intorno a Pompei e lo dico perché Ercolano. Pompei potrebbe sì, ma anche proprio come dire, insieme agli enti locali rivedere l'assetto urbanistico, perché la grande scommessa del progetto Pompei di fare in modo che diventi un polo turistico sì. e diventi realmente un polo di ricchezza. E questa è naturalmente stessa... certo la sfida che è tanto importante quanto quella di ristrutturare e di mantenere in vita uno degli scavi archeologici più importanti del mondo, perché noi vogliamo naturalmente che questo diventi anche un polo di turismo economico. Le voglio fare una domanda, gliela faccio prima della pausa per il traffico, così ci pensa. È vero che l'UNESCO ha voluto sapere entro la fine del 2013 tutto il dossier su Pompei perché potrebbe toglierlo dal patrimonio tutelato appunto dall'UNESCO, però ce lo dice dopo il traffico. Grazie. Pubblicità. Yeah. Con che banca da oggi puoi investire alla grande? Sapere di numeri, sai, non è più importante. Perché adesso per te non c'è più solo un fondo, ma una selezione studiata, la più gialla del mondo. E allora muoviti ora, il mercato ti aspetta. Rompi il tuo maialino e fai la scelta perfetta. Yeah. Che banca! Nasce Risparmio Gestito Che Banca. Investire non è mai stato così rap. Fino al 30 giugno 2014 paghi solo la commissione di gestione. Foglio informativo e documento informativo su chebanca.it. Che banca? Scegli il giallo. Strade in diretta. Buongiorno, un chilometro di coda sull'autosole tra Frosinone e Ferentino in direzione Roma, dove è chiusa la prima corsia per il recupero di materiale perduto da un camion dopo un incidente. Qualche rallentamento per un incidente, in quanto i veicoli sono già in corsia di emergenza, sulla 27 Mestre Belluno tra Treviso Sud e l'innesto con la 4 Padova-Venezia verso Venezia. Sul resto della rete la nebbia a condizionare gli spostamenti sulle pianure del nord e nelle vallate interne del centro-sud. Infine ricordiamo che come tutte le domeniche in autostrada sino alle 22 non possono circolare i mezzi pesanti. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in compagnia del ministro Brai, 800 24 00 24. Tra poco apriremo anche i microfoni agli ascoltatori. Stiamo parlando di Pompei e la domanda, appunto, l'avete sentita, è: l'UNESCO ha chiesto notizie, ha voluto conoscere il dossier perché c'è un rischio di uscire per Pompei dalla protezione dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità? Brai? Eccoci allora, anzitutto voglio dire che noi abbiamo un gruppo di lavoro che continuamente deve e continuerà a controllare l'avanzamento dei lavori, e di questi nostri risultati informiamo ovviamente l'Unione Europea. Quando sono stato alla riunione dell'UNESCO non c'è stato nessun dubbio sul fatto che Pompei possa un giorno uscire dai siti UNESCO, perché questo pericolo non c'è e quindi non è vero. Devo però dire che non c'è bisogno di ogni volta di creare questo clima di preoccupazione. Noi abbiamo preso su di noi una responsabilità: dobbiamo portare a termine questo progetto, dobbiamo mettere in piedi insieme agli enti locali tutte quelle opere per consentire a un turista di visitare Pompei, dare quegli strumenti agli studenti per venire a dare non solo una mano, ma anche a poter studiare Pompei vivendo. Lo so, voglio però ricordare, sa, ministro, città, sì, Pompei, sì, no, cioè, certamente, no. Però siccome le notizie su Pompei, la storia recente, ma non solo, è tale, per esempio, le dico soltanto questa, la questione per esempio del centro commerciale, che io ho letto qualche giorno fa, che è stato costruito, ma sono anni, però adesso che viene, credo, inaugurato a pochi metri forse da Pompei, e però con gli archeologi che hanno detto: guardate che qua sotto ci sono dei resti importanti, addirittura una Pompei 2 sarebbe, però non si è riusciti, diciamo, a interrompere i lavori che sono iniziati credo nel 2007. Anche questa è una cosa che c'è o no? Ma io le dico che lei ha ragione, però voglio anche ricordarle che ogni volta che il mio ministero fa presente che noi stiamo costruendo sopra quello che è un grande patrimonio di questo paese, un patrimonio appunto che da millenni è su questo paese, spesso veniamo tacciati come coloro che vogliono impedire la modernità. Ecco, forse dobbiamo riconciliarci, dobbiamo incominciare a pensare che il futuro di questo paese è in quei beni storico-artistici, e che forse non solo dobbiamo rileggere tutti questi articoli della Costituzione che ci invitava alla tutela di quel patrimonio. Quindi ci fosse stato lei ministro l'anno in cui sono iniziati i lavori o è stato fatto il progetto, lei avrebbe messo bocca? Ma guardi, sicuramente sì, ma credo che i tecnici del Ministero abbiano tutte le competenze per fare questo. Credo che sia una consapevolezza diffusa che dobbiamo avere, ma non solo di difendere come è giusto questo patrimonio, ma che da questo patrimonio può venire una parte importante del nostro futuro, ma del nostro lavoro. Chi era ministro all'epoca, mi scusi, non per farla parlare male di un ex collega, però... Non è importante, veramente non è importante, non credo che serva a nessuno. Io credo che tutti insieme dobbiamo provare a credere in questo paese. Però questo è una cosa che è stata fatta pochi anni fa, perché credo che appunto risalga al 2007. Ci sono stati gli allarmi degli archeologi e nonostante questo si è andati avanti così pochi anni fa. Quindi è questo, sa, che ci fa pensare che non ci siano queste inversioni di tendenza di cui lei ci parla. Però guardi, io ieri sono rimasto molto colpito da questo invito che ho avuto dalle associazioni a vedere Carditello. Ecco. Carditello è una delle grandi dimore borboniche costruite in Campania, una reggia come bella come Caserta. E questa reggia era abbandonata all'incuria da molti anni, ma nello stesso tempo era difesa da associazioni di cittadini e da un custode volontario che gratuitamente seguiva le sorti di Carditello ed evitava che venisse devastata. Come lei l'ha ricordato, Tommaso è morto la notte di Natale. Quando io sono stato a Carditello e ho fatto questa visita insieme a lui, la prima cosa che mi ha chiesto, mi ha detto: lei non prometta nulla, perché di promesse ne abbiamo avute tante e Carditello si sta distruggendo. La risposta migliore era fare in modo che lo Stato stesse attento, rispettasse le parole, sapesse ascoltare le varie associazioni e Tommaso. Adesso abbiamo acquisito Carditello, adesso starà quanto, a tutti quanto è noi. Costato, mi scusi ministro? Carriello è costato 2 milioni e mezzo di euro, perché grazie al ministro Saccomanni e al lavoro di Banca d'Italia abbiamo avuto riconosciuti i soldi che erano stati spesi gli anni precedenti per restaurarlo. Perché adesso era diventato sede, credo, di rappresentanza dell'alta velocità a un certo punto, è questo? Beh, c'era stato anche questo, sì. E adesso noi vogliamo fare questa fondazione con il Ministero dell'Università, vogliamo fare con il Ministero dell'Ambiente. Carditello può essere davvero voglio ricordarlo, è al centro della Terra dei Fuochi, è la prima risposta concreta che possiamo dare. Ecco, le vorrei fare questa domanda, perché naturalmente l'intervento è stato apprezzato, è stata una lunga pagina sul Corriere, di Stella, ma insomma anche tutte le associazioni ambientalisti legate al mondo della cultura, naturalmente tutti felici perché Carditello, come voleva l'angelo Tommaso, ma non solo, insomma, torna in mano pubblica, torna forse a vivere. Ma con quali soldi poi, visto che i bilanci sono quelli che sono, verrà gestita? Perché poi ci vorrà un progetto per mantenerla, così come, come tutti gli altri beni culturali, no? Cioè, c'è già un progetto per Carditello? Il progetto ci sta, noi adesso abbiamo, in questi pochi giorni abbiamo individuato 3 milioni di euro da dedicare ai primi restauri da fare su Carditello. Poi sono convinto appunto che con gli altri ministeri, dove credo ci voglia, sì, questa capacità di tornare a fare sistema, è questo che dobbiamo fare in questo paese, insieme agli enti locali, alla regione, ai comuni, dobbiamo tornare a condividere un obiettivo e raggiungerlo nei tempi necessari. Lei personalmente cosa come la impiegherebbe la legge di Carditello? Cosa farebbe? Qual è il progetto che mi piacerebbe testa? Che appunto fosse un osservatorio dell'ambiente, fosse un osservatorio delle biodiversità del Mediterraneo. Voglio ricordare che a Carditello si è fatta la prima mozzarella di bufala e il primo parmigiano reggiano dalla Reggia. Ecco, tutto questo non solo secondo me è appunto un atto doveroso verso quei cittadini che ieri mi hanno detto non solo grazie per aver riavuto la Reggia, ma mi hanno detto grazie perché lei ci ha ridato un po' di dignità, un territorio di cui si parla sempre soltanto per fatti malavitosi. E questo mi ha molto colpito, perché quelle 1000 persone avevano davvero voglia di vedere un futuro diverso. Va bene, speriamo che possa essere questo il futuro di Carditello, come l'ha chiamato, un centro? Un laboratorio per esempio per lo studio delle biodiversità del Mediterraneo, per uno studio per l'ambiente, per quello che c'è in quel terreno che, come abbiamo letto in questi giorni, crea molte preoccupazioni. Quindi diciamo un qualcosa di vivo, di attivo, di che abbia anche una funzione, che sarebbe una funzione economica, sociale, importantissima in quel territorio, non soltanto un monumento da visitare. Ministro, è un bel auspicio, lei è il ministro, tocca a lei, mi raccomando. Grazie. Noi grazie. Ci risentiamo presto, perché a questo punto vogliamo sapere se questa storia va avanti. Grazie anche a voi, perché credo che la vostra attenzione sia di grande aiuto in questo lavoro. Noi ci mettiamo la nostra parte. Carlo Gabardini forse le voleva fare... Le volevo solamente fare un complimento per la bellissima foto che ha pubblicato su Twitter di Arnoldo Foà in memoria ieri. Le volevo fare veramente i complimenti, è una foto stupenda. Grazie davvero molto, grazie. Va bene. Grazie mille, arrivederci. In bocca al lupo presto al ministro Brai, certo, perché così abbiamo ricordato anche la morte anche di Arnoldo Foà, che diciamo... ci addolora molto. Quanti anni aveva? 97. 97 anni. Una di quelle colonne che sembrava che non dovessero morire mai. Esatto. Erano sempre lì. C'erano prima di noi e che pensavamo che ci sarebbe stato anche anni, dopo di noi. Sempre comunque lucido, sempre in gamba. 800 24 00 24. Adesso però veniamo a voi. Intanto ricordiamo subito l'indizio che abbiamo dato per il personaggio della settimana. Per il contest di oggi si vincono 2 biglietti della mostra del FAI che abbiamo ricordato prima. L'indizio è un grosso personaggio internazionale non italiano. Sentiamo Ermanno che ci chiama dalla provincia di Modena. Buongiorno. Parlo da Carpi, grazie. Allora, il personaggio internazionale per me è François Hollande, il presidente francese. Perché? Perché questa settimana abbiamo scoperto che questo presidente, come tanti altri, ha l'amante, e quindi l'hanno scoperto. Sì, che se ne andava in giro con il casco. Ma soprattutto l'amante non è il dato fondamentale, esatto. Soprattutto che ci va in motorino col casco e con la guardia del corpo che gli porta le briochine la mattina presto. È una storia incredibile, Ermanno, però non è Hollande. Non è Hollande, grazie, perché comunque la risposta ci stava. Era il personaggio. Infatti, secondo me, il primo indizio poteva anche sviare in questo senso. Ci sembrava troppo facile Hollande, quindi Alessio ha detto: ma è troppo facile Hollande. Facciamo Alessio che ci chiama da Gorizia. Buongiorno. Non so se La chiamo da Gorizia, ma non chiamavo per per questo tema. Chiamavo per intervenire sulla tematica che avete trattato poco fa della scuola. Ah, certo, benissimo. Innanzitutto per ringraziarvi di aver posto la scuola al centro dell'attenzione dei vostri ascoltatori. Dobbiamo ringraziare l'Economist che ha fatto quella bella ricerca, prego. Sì, certo. E poi per due considerazioni rapidissime. Sì. Allora, se è vero che i docenti sono tanto importanti per fare una scuola di qualità, allora forse sarebbe il caso di pensare a motivarli in qualche modo. E la motivazione dei docenti è un obiettivo da raggiungere probabilmente non soltanto attraverso aumenti salariali, che pure sarebbero opportuni. Certo, non attraverso diminuzioni del salario, ecco, magari no, questo no. Certamente, ma voglio dire, non ci sono soltanto quelle misure per motivare la gente a lavorare. Poi, penso, per esempio, poi perché fra poco dobbiamo chiudere, mi dica? Sì, a nessuno di noi vengono riconosciute le spese di aggiornamento, per esempio. Non abbiamo nessun tipo di detrazione fiscale per le spese che sosteniamo per l'acquisto di libri. Prima cosa, sì. Seconda velocissima considerazione è che molto spesso le scuole sono indotte ad inventarsi delle iniziative nuove, e mi ricollego a quello che diceva la preside, per raggiungere la soddisfazione dell'utente, la customer satisfaction, e cioè per procacciarsi dei clienti, e questo non dobbiamo, so se sia un aspetto dobbiamo... positivo, non so ho capito, ho capito, va bene, grazie per la sua considerazione Alessio, ci fermiamo qua, 800 24 00 24, torniamo dopo il giornale radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ben ritrovati, vi ricordiamo che potete interagire in tempo reale con noi, il nostro account su Twitter, quello del programma è @sipuofare24, il mio @AleMaurizzi e il mio @CarloGabardini. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta per commentare quello che avete sentito. Abbiamo parlato prima di scuola nella settimana nella quale c'è stato il blitz sugli stipendi degli insegnanti, poi rientrato, abbiamo parlato con la preside della scuola Scuola Volta di Reggio Calabria, un caso d'eccellenza secondo il settimanale di Economist. E poi avete sentito l'intervista al ministro Brai, che ci ha dato un po' di notizie su Pompei, sulla legge di Carditello, sui bronzi di Riace. Si tenta di rilanciare prima che l'UNESCO faccia marcia indietro, per esempio, sul patrimonio dell'umanità a Pompei. Insomma, il nostro più importante sito archeologico italiano. 800 24 00 24. Qual è lo stato di salute dei beni culturali italiani? Vabbè, immagino già la quella di insulti che potrebbero arrivare anche via SMS. E poi c'è il personaggio della settimana, si vincono due biglietti per i primi che rispondono della mostra Aesthesis all'origine delle sensazioni, Robert Irwin e Jane Starrell a Villa Panza, una mostra organizzata dal FAI fino al 2 novembre del 2014. Il primo indizio che abbiamo dato è un grosso personaggio internazionale non italiano, che quindi sono già praticamente due indizi, diciamo. Sono già due indizi. Sono già due indizi grosso, internazionale. E poi. E poi aggiungiamo che è nato a Londra. È nato a Londra. Ha un colore a cui che vogliamo associargli. Un colore. Beh, diciamo che però se dovesse avere un colore. Ma lo diciamo come indizio. Diciamo, sì. Cominciamo intanto a pensare a un colore, va? Che, esatto. E vediamo se è grosso personaggio internazionale. Grosso, è nato a Londra. Pesante nel Novecento, nel Novecento. Pensate al Novecento, non soltanto proprio adesso. 800 24 00 24. Abbiamo fatto un intruglio incredibile. No, perfetto, perfetto. Stanno lavorando, sento proprio i cervelli di tutta Italia che stanno lavorando su questo personaggio. Va bene, adesso invece saliamo sul treno. And he's all so good. And he's all so fine. And he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best things so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls a mane. And she stirs the tea with counselors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man. And he's all so good, and he's all so fine. Questa canzone racconta la storia di uno che praticamente vive sul treno, prende il treno e viaggia in treno. Praticamente la storia di un pendolare, la storia di 3 milioni di italiani che ogni giorno però lui l'ha cantata meglio, diciamo. Cantata meglio. Anche con allegria e non con la mestizia che normalmente contraddistingue la vita del pendolare. Ma evidentemente non prendeva dei treni italiani, che dici? Così a sentire dall'idioma, mi sembra. Ieri abbiamo sentito il presidente della Toscana Rossi che ha annunciato una gara internazionale per le tratte regionali in Toscana e ha disdetto il contratto con Trenitalia. Chissà, magari ci porta un po' di allegria inglese, cioè allegria inglese. La famosa allegria inglese, quella proprio londinese come il nostro personaggio, appunto. Ah, vedi, così rinforziamo l'indizio sul personaggio della settimana 800 24 00 24. Tra poco risentiamo gli ascoltatori. Noi andiamo ad Asti, dove andiamo? Adesso lo chiediamo al nostro personaggio, perché parliamo della tratta di pendolari Asti-Torino, una stazione la domenica chiusa e deserta, nella quale i pendolari si sono auto-organizzati, pensa un po' cosa deve accadere in Italia, per darsi un po' di conforto, aiutarsi a vicenda, generi appunto di prima necessità. E noi abbiamo convocato Claudio Lano, che è il presidente del comitato pendolari Asti-Torino. Buongiorno. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Buongiorno. Stiamo parlando della stazione di Asti, è vero? Stiamo parlando della stazione di Asti. Vorrei fare una premessa prima, legandomi al vostro discorso. L'ambiente, diciamo, dei pendolari italiani è un ambiente molto italiano, non è molto inglese, per fortuna. Perché per fortuna? Giustamente? Insomma, la vitalità italiana, voi sapete, è molto più colorita. Ci sta dando un messaggio positivo. Ma questo è molto bello, cioè, lei è di ottimo umore. Ovviamente, sì, ma fare il pendolare è una scelta di vita, nonostante tutto, è molto bello, quindi questo sia molto chiaro. Poi non potrebbe essere il presidente del comitato pendolare una persona che non ha un po' di entusiasmo e che non trascina in qualche modo. Io sono uno che felicemente occupa le stazioni e fa l'autogestione. Però sono felicemente stupito, perché di solito invece sono sempre incazzatissimi, arrabbiati, giustamente, un sacco di cose, invece uno si lamenta, giustamente. Ottimo. Senta, so che questa cosa di cui stiamo parlando non la fate proprio tutte le domeniche, tra l'altro. No, l'abbiamo fatto domenica scorsa come iniziativa, poi pensiamo, visto anche il successo e l'utilità, di proseguirla per qualche altra domenica. Ecco. Diciamo che noi abbiamo fatto questo servizio definendolo servizio sostitutivo di assistenza, cioè usando la stessa terminologia che usa in Italia quando sostituisci i bus ai treni, no? Quindi già per dare l'idea un po' della vitalità, insomma. L'abbiamo fatto come dimostrazione, per dimostrare quanto serva un servizio. La stazione di Asti è un capoluogo di provincia, non è proprio una stazioncina piccola, insomma. Ecco, quindi lasciarla abbandonata la domenica è una cosa abbastanza bravo, isolante. Infatti questa cosa mi ha colpito. Cioè, la stazione di Asti la domenica come si presenta? Cioè, descriva. Allora, è una situazione tipo Olanda post-terremoto, sostanzialmente, perché c'è una stazione che è stata ricostruita, o meglio, rifatta esteticamente qualche anno fa, rifacendo i locali per negozi, eccetera, che sono totalmente disabitati, quindi già c'è questo senso di abbandono. Poi la sala d'attesa è al chiuso, però voglio dire al freddo, nell'atrio non è riscaldata, per di più con i servizi tipo edicola e bar che sono quasi sempre chiusi nei festivi, e il servizio di biglietteria che fa anche da servizio informativo che è anche chiuso, sbarrato, quindi veramente l'impressione è quella di Landa desolata, tant'è che noi abbiamo fatto venire con noi gli alpini, a parte per darci un aiuto anche come spirito, voglio dire, ma proprio per darci quest'idea di assistenza post terremoto, perché questa è l'impressione che si ha entrando nella stazione di Asti nei giorni festivi. È abbastanza inquietante quello che lei dice. No, anche perché, insomma, io per esempio vengo da una piccola città, Pisa, turistica magari, ma non ho un ricordo di una stazione la domenica così abbandonata e desertica. È curioso, perché Asti non è una città piccolissima. Quanti abitanti fa? Beh, è una città di circa 100.000 abitanti. Beh, insomma. Però è comunque il centro di una provincia che ha anche un suo appeal turistico. Non dimentichiamoci che fra un anno ci sarà l'Expo 2015 a Milano. E comunque 100.000 abitanti non sono pochi. Che interessano molto a noi, insomma. Senta, voi cosa avete fatto domenica scorsa? Cioè, di fronte a tutta questa desolazione, a un certo punto, dopo anni e anni di pendolaresimo, di gente che viaggia anche la domenica, che cosa è che avete fatto e che avete organizzato? Allora, noi abbiamo notato che c'è questo totale, appunto, abbandono, per cui abbiamo deciso di fare questo servizio dimostrativo, ma in realtà è stato utile. Cioè, abbiamo semplicemente messo un banchetto con un porta computer portatile, una chiavetta per collegarci a internet, e abbiamo usato poi le strutture di Trenitalia, anche il sistema Trenitalia. Non abbiamo messo nulla di nostro sostanzialmente, solo la nostra presenza. Quindi noi siamo lì, assistiamo la clientela, perché c'è la biglietteria automatica, che non è proprio così semplice, neanche nemmeno chiara ed esplicita nelle informazioni. Aiutiamo la gente in queste informazioni e diamo le informazioni sui treni, sui cambi, su queste cose qua, attraverso il sito di internet. Quindi noi non aggiungiamo nulla di quello che c'è già previsto da Trenitalia. Giocate a fare fate una finta biglietteria, che è bellissimo, nel senso che ci sono tutte le strutture, voi vi collegate a internet, usate le cose. Ci siamo messi proprio di fronte alla biglietteria chiusa e abbiamo fatto questo servizio. Cioè, esseri umani al posto di macchinette di robot, automatiche, esatto. Spesso incomprensibili e molto difficili da usare per gli anziani. Questa. Esatto, ma sono difficili da interpretare anche per i giovani, devo dire. Non è proprio così, è una cosa incredibile, ma è così. Sì, è che in realtà ormai i biglietti si fanno quasi tutti online. Però la cosa che mi chiedo è, nel momento che voi fate questo servizio straordinario, fatto anche da ex alpini, da c'è di tutto. Pensionati, ex ferrovieri. E il rischio non è che Trenitalia dica: ma è perfetto, che se ne occupino loro, nel senso che noi non la facciamo, la fanno loro, vengono la domenica. Secondo me fra un po' vi chiedono di andare anche il lunedì, no? Ma mi sa che quasi questo rischio c'è in effetti. Perché... infatti l'unico problema che non avevamo è che ci facessero intervenire con le forze dell'ordine per farci mandare via, perché pensavo proprio che non gli convenisse. No, in effetti adesso mi sa che mi sorge questo dubbio, forse dobbiamo fare un po' attenzione sotto questo aspetto. Anche perché poi lei sembra soddisfattissimo, quindi uno dice pure contento, e ci mancherebbe se non si lamenta. Siamo pure felici, insomma. Venga anche il mercoledì, secondo me, ma venga anche a Milano davanti alle macchinette, che abbiamo bisogno anche noi. Difatti, questo è un aspetto che mi sta mettendo la pulce nell'orecchio, un aspetto che dobbiamo valutare molto attentamente. Facciamo una brevissima pausa per il traffico, guarda caso, poi torniamo subito dopo. Pausa. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo in compagnia del nostro amico pendolare di Asti, Claudio Lano, che è il presidente del comitato pendolari Asti Torino. Lei non so che lavoro fa, per esempio, oppure se non vuole entrare in questo, che orari fa la mattina quando va? Io mi occupo di grafica e lavoro, per mia fortuna, per conto mio, quindi gli orari sono abbastanza elastici. Ovviamente si lavora in orari normali, però non ho il problema di bollare la cartolina. Però tutti i giorni, insomma, volti. Prende il treno e va a Torino, questa è la sostanza. Esattamente, sì. E ritorna, ovviamente. Senta, lei che è appunto presidente di questo piccolo comitato di pendolari, a parte piccolo, magari non è neanche tanto piccolo, quanti siete? Non è molto piccolo, abbiamo come associati effettivi sono oltre 400, i pendolari su quella tratta siamo sui 3-4 mila, quindi insomma... Senta, lei ha sentito le notizie di queste ultime settimane in Veneto, il presidente della regione Zaia, ma sì, anche in Toscana il presidente Rossi, prima ancora, hanno annunciato di avere disdetto il contratto con Trenitalia per i treni regionali, perché dicono vogliamo fare delle gare, magari anche internazionali, per avere un'offerta nuova, insomma, dei gestori nuovi, oppure Trenitalia più motivata, avendo una concorrenza da superare, a offrire un servizio migliore. Avete, ora io non so se in Piemonte ci sono annunci del genere, in ogni caso questa notizia vi fa sperare per il futuro? Ma noi sì, in Piemonte abbiamo anticipato queste cose, perché 4 anni fa Piemonte decise, sì, di andare a gara sui servizi ferroviari. Sì, e giusto. Noi come poi c'era la vicenda di Arena, se vogliamo. Partecipammo anche, sì, assieme all'assessorato, alla creazione di questo bando di gara. E poi ci fu il cambio dell'amministrazione, adesso quello che succede in Piemonte lo sanno tutti, inutile parlarci su, però che succede? Che succede? Venne poi sospeso questo bando di gara, però ripeto, noi siamo, sì, favorevoli a questo tipo di cose, perché è l'unico modo per riuscire a trattare da pari a pari quantomeno con Trenitalia, da un punto di vista proprio commerciale, diciamo. Sì, no, a parte le note vicende delle elezioni annullate del 2010, esatto, in Piemonte, lì c'era stata anche la vicenda di quel ex capo stazione che aveva cercato di aprire una compagnia, Arena, che poi ha avuto giustizia, non gli fu consentito praticamente per un emendamento pro Trenitalia il giorno prima dell'apertura, poi credo che gli sia stata riconosciuta una multa che è stata fatta a Trenitalia, che poi non so se ha intascato lui o gliela fece l'antitrust. Però, ma insomma, in realtà non so ancora, perché se ai tempi della giustizia in Italia se sia stata pagata questa multa. Però lei la sa, diciamo, che ha avuto giustizia postuma, perché nel frattempo la sua società era fallita proprio per questi impedimenti di Trenitalia poi condannati. Quindi questa bella idea è stata subito abortita, è stata ostacolata durissimamente da Trenitalia e purtroppo anche dall'attuale assessore regionale ai trasporti, incredibilmente, insomma. Però appunto l'azienda fallì e poi arrivò la sentenza postuma per dire che comunque aveva ragione, insomma, chiamo di epitaffio, diciamo. Vabbè, noi siamo, diciamo, da questo punto di vista qua serenamente a favore di una concorrenza che possa migliorare il servizio per i pendolari, che insomma, non so se ci vuole ricordare lei qualche disagio particolare, però io ne ho sentito raccontare. Intanto i nostri ascoltatori ci tengono a precisare che Asti ha 75.000 abitanti, qualcuno dice 70.000, qualcuno 68.000, stanno scendendo gli abitanti di Asti lentamente. Ah, ho capito, aspetta che mi sono lontanato un attimo, sono scappati. Esatto. Lo dicevo, no, così per chi ci ha mandato l'SMS, lo dicevo. mi inchino a queste cose, agli SMS soprattutto. No, se quante ore abbiamo per raccontarvi i disagi? No, vabbè, sì, esatto. Abbiamo parecchie puntate. Semplicemente, in sintesi, noi vorremmo essenzialmente intanto che ci fossero i treni, ecco, per esempio, perché a volte vai in stazione e non sai bene, un treno in ritardo di 50 minuti, altro di 40 minuti, noi andiamo lì, diciamo, andiamo e prima che passa lo prendiamo, ecco. Questa è un po' l'icona della situazione. Quindi prima ancora, diciamo, del disagio di salire sul treno, voi volete che ci sia il treno, e questo mi sembra già una bella fotografia della situazione. Grazie a lei. Di poco. Grazie a voi e nonostante tutto continuate a viaggiare in treno. Grazie. Bello questo invito. Bocca al lupo per le vostre attività. Magari una delle prossime domeniche facciamo un altro collegamento mentre siete lì a fare i biglietti e a tenere compagnia ai pendolari nella stazione di Asti deserta. Incredibile questa vicenda. E poi è bellissimo perché uno già fa il pendolare tutta la settimana e la domenica dice: cosa facciamo? E andiamo in stazione a dare una mano, perché mette che c'è qualcuno che ha bisogno. Bisogna proprio essere innamorati del treno. Però molto, sentito, è bella questa cosa del signor Lano, che tutto sommato ha invitato ad andare in treno, non ce l'ha con nessuno. Esatto, l'entusiasmo, non l'ho mai sentito, no? Di solito è sempre di dire ci sono, c'è l'odore, sono sporchi, c'è questo, quest'altro. Un eccesso di amore per la vita, direi. Per la vita, oltre che per i treni. Andiamo agli ascoltatori 800 24 00 24, Rosalba che ci chiama da Napoli. Buongiorno Rosalba. Buongiorno. Buongiorno. Prego, su cosa voleva intervenire? Io sono un dirigente scolastico di Napoli e volevo intervenire in merito al caso di eccellenza. Per quanto riguarda il caso di eccellenza, io non posso essere contenta, perché dal momento che la fonte che cita questa scuola è Economist, quindi ha la sua ultra attendibilità. Soltanto che per quanto riguarda la situazione dei docenti, bisogna, è complessa, cioè da un lato bisogna rischiare di non cadere nell'autoreferenzialità, da un altro bisogna avere quella lucida obiettività di riconoscere quali sono i punti di forza e le criticità legate proprio a questo ruolo. Io sono dirigente da 7 anni e ho avuto la fortuna di essere dirigente nella scuola in cui ho insegnato 23 anni in una scuola, in un contesto di grande disagio. Sì. E praticamente quello che io ho riscontrato, ma già come docente, è che purtroppo non tutti hanno il talento vocazionale. Oh, cioè, quindi lei tocca questa corda qua del talento, ci vuole la vocazione. È molto importante, guardi, educatori e medici, io li pongo sullo stesso piano, è vero. L'esempio che faccio ai miei docenti. Entrambi queste funzioni non devono avere orari. Sindacalizzare queste professioni. Rosalba, è vero che insomma, in passato spesso l'insegnante è stato un lavoro facile, quando si entrava nei concorsi più facilmente, non come adesso, che facevano le mogli dei professionisti, che così, giusto per avere un'occupazione un po' a tempo perso. È stato un po' anche questo? È questo, certo, ma ancora adesso c'è una la moglie mentalità... del medico, la moglie del notaio, la moglie dell'avvocato. Ma non è non solo la moglie del notaio, ci sono, premetto, docenti che proprio lavorando al mio fianco in contesto di estrema difficoltà, faccio il nome, Scampia, e quindi questo evoca tante situazioni. Insomma, c'è chi ce l'ha la vocazione, però c'è anche chi non ce l'ha, bisognerebbe, non so, far passare un messaggio di maggiore attenzione a questo tema. Ma c'è Certo, perché alcuni hanno la mentalità ancora che fare il ruolo docente sia part time, cioè oggi posso però fare la moglie, sì, la sì, mamma. Sì, è chiaro, Rosalba, grazie tra l'altro per aver chiamato. Credo però che oggi, col fatto che appunto gli stipendi sono rimasti inchiodati a quello che erano, si guadagna poco, allora diciamo per la 22ª volta, e i concorsi non è che ce ne siano tanti, credo che chi entra oggi nella scuola un po' di vocazione ce la deve avere, perché sennò chi glielo fa fare di mettersi lì in coda, aspettare un sacco di tempo per uno stipendio così come quello che, certo, che è. Quindi forse, chissà, magari tra qualche anno vedremo un'inversione di tendenza, forse tra gli insegnanti. Ornella da Monza, scusami, sì, no, volevo aggiungere che stai dicendo che, cioè, queste condizioni sono in realtà un piano geniale per far sì che i professori, sì, abbiano la vocazione, una selezione naturale. Beh, cioè, sei riuscito a trovare il buono anche in questo, di dire la scuola la stanno un pochino distruggendo e smantellando, di modo che tu devi veramente aver voglia di fare questa roba, perché tu lavorerai per 700 euro al mese e devi insegnare dei ragazzini. Sei un grande, Alessio. Questa è la deviazione mentale ormai di fare si può fare. Ornella da Monza, buongiorno. Buongiorno. Prego, lei su cosa vuole intervenire? Dunque, sono d'accordo innanzitutto con voi. Un po' di vocazione ci vorrebbe in tutte le cose che noi facciamo nella vita, sì. Farebbe tutto un mondo migliore. E poi telefonavo per proporre come soluzione al vostro quiz. Ah, attenzione, bene, bene. Ariel Sharon. Vabbè, perché non glielo chiedo? Perché il personaggio, perché sicuramente essendo scomparso. Certo, e poi trovo che sia un grosso personaggio. È un grosso personaggio in tanti sicuramente. Sensi della. Sì, sì, sì, sì. Sia storicamente che metaforicamente. Che fisicamente. Che fisicamente, sì, sì. Anche però non è Ariel Sharon. Non importa, però non è Ariel Sharon. Ornella, lei è andata, non dico vicina, perché non è andata neanche vicina, però ha trovato una chiave giusta. E poteva, infatti, diciamo che anche Sharon, esatto, era un po' in lizza tra i personaggi. Possiamo aggiungerci, visto che stiamo parlando della morte di Sharon, per mettere un altro pezzo di indizio? No? Aspetta, no, aspetta, aspettiamo un po', mettiamo un po' di sale. Giacometta da Reggio Emilia. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Giacometta, è così il suo nome? Sì, è il mio nome. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire? Sul personaggio. Ok. Sì. Ci dica. Prego, tocca a lei, sì. Winston Churchill. Winston Churchill. Lei ha accolto il suggerimento. Perché intanto però personaggio della settimana? Ah no, ma io ho sentito che lei diceva del Novecento. Sì, sì. No, ha ragione sull'indizio. Io ho sottolineato questa cosa, ma pensate al Novecento e Churchill ci può stare. Però ricordiamoci che Novecento ho pensato a te. No, ma è giustissimo, che comunque è un personaggio legato anche legato a una notizia. A una notizia della settimana. Cioè cerchiamolo, chiamiamolo della settimana perché è legato a qualche cosa che lo riguarda e che è avvenuto questa settimana. E in effetti, no, Giacometta, grazie anche a lei per aver chiamato. Ve l'abbiamo chiesto perché eravamo curiosi, magari no, Churchill. Sai che Churchill fatto qualcosa, è vicino, non lo so, c'è qualcosa che vabbè. 800 24 00 24. Grazie anche a Giacometta. Vi ricordo che in palio ci sono i biglietti della mostra di Villa Panza, il FAI a Estesis, ma secondo me piano piano ci arriviamo. Dopo la pausa diamo un altro indizio, va bene. Sentirsi con papà senza santi da pregare si può fare. Eccoci qua, ben ritrovati. Andiamo. Volevo dirti, sì, che mi sa che adesso hai perso un ascoltatore, diciamo, visto. Vabbè, che nel mio ruolo di stagista mi sa che ho perso anch'io un punto, perché in un SMS dice: Maurizio, se non ci fosse Gabardini l'ascolterei, ma si è dichiarato gay Gabardini e l'avevamo comunque capito quando ha parlato più volte di sua mamma, perché i gay comunque sono ambiti a Radio 24 ma sono degli spostati. Quindi così mi spiace molto. Vorrei dire anche a questo ascoltatore che ci manda l'SMS che comunque, voglio dire, tipo anche Woody Allen parla di sua mamma, ma direi che è proprio gay, è tutto quello che volete, ma gay no, quindi direi che l'indizio ci sono. Posso dire che ci sono anche degli SMS che non vale la pena nemmeno leggerli, No, si può dire, ma volevo dire, certo che ci può dire, ma volevo dire a tutta Radio 24 che è colpa mia che si è perso un ascoltatore che venga messo sul mio conto. È importante questo. Andiamo a Roma, ci chiama Daniela, buongiorno. Buongiorno a voi signori. Buongiorno. Eccola qua. Volevo solo dire una cosa, che essere spostati non sempre è negativo, eh? Può essere una cosa molto divertente e carina. Condivido grazie, totalmente. Daniela. Bello, ci ha chiamato per questo, lei è un genio, perché addirittura era già cosa sarebbe successo. No, purtroppo ho chiamato per cose molto più pratiche, perché io sono una pendolare della tratta Nettuno-Roma. Sì. E chi la conosce sa che è l'inferno in terra. Ah sì, eh? Io però volevo dire una cosa, sono belli i discorsi di togliere all'FS la gestione dei treni regionali, rivolgersi all'estero o altre compagnie private eccetera, ma le regioni, e io parlo della regione Lazio, deve un sacco di soldi all'FS. Allora io mi chiedo se questa stessa capacità di evitare di pagare i propri buffi si possano applicare anche a privati o altre compagnie. Cioè, oh, è tutto un discorso a monte, c'è poca serietà. Se il concessionario è la regione e poi non paga, è chiaro che il servizio le dice di conseguenza diventa quello che è. Però ci sono regioni dove magari questi debiti non ci sono, come Veneto in Toscana, dove però si cerca di cambiare strada lo stesso, quantomeno insomma non è scontato che poi alla fine di queste gare non vinca di nuovo Trenitalia, perché magari è in grado di offrire il servizio migliore, però magari possono cambiare le condizioni, possono migliorare. Perché non saprei chi è questo, non saprei chi potrebbe proporsi come nuovo gestore, potrebbe avere la stessa la voglia e la fantasia di farlo. Anche operatori stranieri, sarebbe carino gestirlo da una compagnia di privati cittadini, magari, no? Perché che sanno quali sono i reali problemi. È la notizia che abbiamo appena dato, infatti. A parte che anche lei mi sembra di ottimo umore, nonostante venga dall'inferno Nettuno Roma quotidianamente. Io potrei scrivere un libro, un giorno lo farò, perché voi non avete idea, non sapete cosa vuol dire. A che ora prende il treno lei? Allora, io faccio dei turni, per cui li prendo in orari abbastanza decenti. Solo che adesso la mattina, quello delle 9:07, me l'hanno proprio cancellato, me l'hanno anticipato. Per cui io arrivo a Roma un'ora prima e me la faccio a piedi 3 km tutti i giorni per far passare il tempo. Quindi sono fortunata. Quindi è in splendida forma, diciamo. Perlomeno è in splendida forma, se tutte le mattine fa un'ora di camminata. Io da quando lavoro mi sono dimagrita. Vedi, i vantaggi, gli effetti collaterali positivi del pendolarismo. Come si dice, pendolarismo o pendolarismo? Pendolarismo è una religione, è la religione dell'arrivare in ritardo, il pendolarismo. Grazie, direi. Daniela, grazie. Grazie mille, arrivederci. Buona giornata, arrivederci. Arrivederci. Sentiamo Claudia da Genova. Tra l'altro non abbiamo chiesto a Daniela se voleva rispondere al personaggio. Vabbè, è andata. Avrebbe detto Nettuno, Claudio. È Nettuno. Buongiorno. Buongiorno Claudia, prego, tocca a lei. Buongiorno, finalmente c'è un sole splendido dopo tanta pioggia. Da dove ci chiama? Da Genova. Ah, da perfetto. Genova. Scusi. Buongiorno. No, le chiedo scusa, l'ho richiesto perché io sono stagista, quindi non ho neanche il monitor e non vedo esattamente da dove chiamate, quindi cerco di intuirlo dalla voce, dall'accento. È così, ce lo perdoni Gabardini. Prego, Claudia. Ce l'ho l'accento genovese o no? Sì, un pochino sì, mi sembra. Se parla e dice qualcosa lo scopriamo. Ah, beh, non so, Belì. Vabbè, così è troppo facile, però. Ma lei ha chiamato per fare un indovinello a noi, per capire. No. Senta, siete simpaticissimi. Io ho chiamato per dire che il personaggio, secondo me, già la prima mi sembrava la Merkel. La Merkel, che è un grosso personaggio internazionale. Si è fatta male. Beh, si è fatta male, vera, è caduta. Ed era in effetti, Claudia, era in lizza anche lei. È molto bello vedere come tutte le volte indovinate sempre i personaggi. Perfetto, siamo contenti. Perché l'inizio... Poi, scusi, invece la cosa che più mi interessava dire, che bello anche per noi italiani sentire qualche politico che parla come il ministro della cultura di poco fa, veramente. Come? Che parla come? Benissimo, speriamo che poi faccia anche quello che dice. Lei si riferisce proprio allo stile, dialettico, alla retorica? No, quello che ha detto. O quello che ha detto, i contenuti, ecco, cioè l'attenzione al nostro patrimonio culturale che per forza sarà la nostra ripresa. Va bene, Claudia, grazie anche per averci creduto. Grazie, no, perché mille. Poi sono dichiarazioni. Io ci voglio credere. Lo so, no, io ci voglio credere, non è che non cultura ci credo a prescindere. Territorio. Non è il primo ministro che fa delle promesse in questo senso, questo voglio dire. Però, infatti, io andavo più sulla forma, bravo, perché la forma invece era molto bella. Diamo un bellissimo modo ministro, di parlare. Bravo, comunque, di avere preso anche degli impegni anche poco fa parlando con noi. Va bene, adesso, dopo torneremo con gli ascoltatori per il personaggio della settimana. Adesso, invece, parliamo di Impresa Impossibile. Without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Impresa Impossibile, storie di italiani che hanno combattuto e vinto la crisi, è il nuovo libro di Corrado Formigli. Buongiorno. Buongiorno a voi. Che lo abbiamo con grande piacere convocato qua, tra l'altro, vabbè, conduttore di Piazza Pulita. Da quanto tempo? Ormai è un ciclo... Beh, questa è la terza stagione, ricominciamo domani dopo la pausa natalizia. Ha collaborato anche con Radio 24... Corrado in passato, come no. Certo. Certo, come no. È stata anche una delle voci migliori. Con grande piacere ho fatto la zanzara estiva, versione estiva, dando il cambio a Giuseppe Cruciani. Ah, come noi quindi, siamo esatto, gebelli in questo. Esatto. C'è tutto, esatto, perché Radio 24 non si ferma mai, è tutta una macchina. Mi piace tantissimo la radio, ma è una cosa proprio, a volte mi viene voglia di fare solo quello, di prendermi una pausa sabbatica. Noi siamo qua, se vuoi venire ci fa un grande piacere. Senti, intanto la dedica di questo libro che... insomma, noi facciamo un programma, si chiama Si può fare, parliamo continuamente di storie, anche di follia se vogliamo, come diceva anche la canzone, di chi crede, ce la fa, lotta nonostante tutto, però le devo dire che la dedica mi è piaciuta molto, ai miei genitori al posto della tesi di laurea. È una dedica dovuta, nel senso che io ho studiato giurisprudenza e ho fatto 24 esami, me ne mancano due, poi il demonio del giornalismo mi ha portato fuori dall'Italia, a Londra, a girare, poi sai, insomma, lo saprai anche tu, quando uno comincia a fare questo mestiere non c'è più molto spazio per il resto. Però devo dire che questo libro è stato un po' una piccola impresa impossibile anche per me, perché è stato scritto, diciamo, nei ritagli di tempo, tornando a fare l'inviato in giro per l'Italia, e in qualche modo mi ha riscattato un po' dal senso di colpa di non essere riuscito ancora a scrivere la tesi di laurea, a finire questi due benedetti esami, ecco. Perché tu parti anche nell'introduzione raccontando, insomma, di anche delle persone che sono venute in studio lì a Piazza Pulita con le loro storie di impresa, appunto. Dopodiché hai deciso di tornare a mettere le scarpe dell'inviato, a indossare i panni dell'inviato, sì. Perché si vedono le cose in maniera diversa, naturalmente, ovvio, che dallo studio, dove spesso si finisce per dare spazio al dibattito, eccetera. È così, innanzitutto, appunto, vorrei chiarire, perché qualcuno ti guarda un po' con l'occhio malizioso: ah, hai fatto un libro compilation delle storie di Piazza Pulita. No, non è ecco, così. Lo voglio dire a tutti quelli che ascoltano: non c'è niente, nessuna storia di Piazza Pulita nel è libro, tutto inedito. Sono tornato a fare l'inviato, mi sono, appunto, come dici tu, rimesso sui marciapiedi dell'Italia in macchina, l'ho girata in macchina da nord a sud, perché è giusto quello che tu dicevi, cioè quando fai il conduttore televisivo, io che sono, mi considero un inviato, ho fatto tutta la vita l'inviato, sì. Ti manca un po' quel punto di vista lì, cioè vivi la realtà italiana più attraverso gli altri, cioè attraverso i servizi dei miei inviati. Avevo bisogno anche di capire davvero che cosa siamo diventati, che cosa sta succedendo in Italia, e quindi ho voluto tornare a fare il mio antico mestiere, che credo tutti i conduttori dovrebbero fare ogni tanto per rigenerarsi, e capire un po' meglio poi in studio che cosa è davvero l'Italia, no? Che cosa Senti, si racconta i nostri politici. Prima di arrivare poi a dirci anche un po' di queste storie e anche di come ti è venuta l'idea di costruire, appunto, una serie di racconti su persone che fanno impresa nonostante tutto in Italia, però a me è piaciuto qualche sera fa, quando sulla 7, insomma, il canale dove lavori, intervistato, credo, a Lilli Gruber, hai detto a un certo punto. Guardate che queste storie ci dimostrano, insomma, fondamentalmente una cosa, un po' forse la conclusione, non so, una delle conclusioni possibili di questo libro, che è inutile aspettare che il sussidio, lo Stato, la formazione, i canali di cui ci lamentiamo sempre che mancano, ma queste storie che io ho raccontato dimostrano che si deve fare nonostante tutto, contro tutto e contro tutti. È così, nel senso che io le storie che racconto sono storie di imprenditori che a un certo punto si sono resi conto che se volevano rimanere in Italia, se volevano praticare il loro sogno di impresa e portare avanti i loro progetti, dovevano rendersi in qualche maniera autonomi dallo Stato. Ora non voglio dare un messaggio eversivo, io sono per lo Stato e penso che lo Stato abbia un ruolo molto importante di regolatore nel nostro paese. Allora usiamo una parola più giusta: la burocrazia, ok? La macchina dello Stato, che è una macchina spietata, impersonale, spesso insensibile, incapace di capire le esigenze dei cittadini e soprattutto degli imprenditori. Abbiamo un sistema fiscale pazzesco, ma non solo pazzesco per quanto riguarda l'imposizione fiscale, la pressione fiscale, ma proprio per come è concepito. Io a fianco agli imprenditori ho conosciuto i loro direttori amministrativi, sono persone che non dormono la notte perché vanno a dormire dicendo: ma avrò fatto tutto quello che la legge mi richiede? Avrò riempito tutti i moduli? Sarò riuscito a non dimenticarmi qualche minuscolo codicillo che poi mi rende vulnerabile da parte del fisco e della burocrazia? Questo è il problema principale, che questi imprenditori hanno deciso di rimanere in Italia nonostante la burocrazia e questa pazzesca, assurda macchina amministrativa che obiettivamente opprime gli imprenditori onesti. Senti, anche noi siamo innamorati proprio delle storie, perché ogni storia ha una particolarità, porta anche negli inciampi, come dicevi tu, insomma, nelle cose magari non pianificate vengono fuori le cose più belle, insomma, industrie che partono dagli scarti, come il caso di Edilana, che ha raccontato invece Ermete Realacci in un altro libro, ma questa è un'altra storia. Quale invece di queste storie, forse, Corrado, non lo so, una che ci vuoi raccontare, che ti ha colpito di più, che ti piace di più? Guarda, se io spesso parlo delle storie più macroscopiche, quella di Michele Alessi che fa le caffettiere, quella di Loccioni che nelle Marche fa dei sistemi incredibili di controllo delle linee di produzione, quello di Mutti e Venchi che fanno il pomodoro e il cioccolato, però oggi, stamattina, vorrei concentrarmi invece su due storie più piccole apparentemente. Sono gli imprenditori più piccoli dal punto di vista del fatturato che io ho raccontato, che sono una stilista della Tuscia viterbese che si chiama Benetta Bruzzichers, che fa delle borse bellissime, molto fashion, che vengono vendute nei più grandi magazzini di lusso del mondo, da Bloomingdale's, Harvey Nichols, a Corso Como, a Milano, a tutte le grandi catene, Lafayette. Sì. Fa delle borse fashion a 28 anni, è stata 3 anni in India, dopo aver fatto la designer a Milano è andata in India e ha conosciuto i meccanismi feroci della globalizzazione nel mondo della moda, cioè ha vissuto ed è stata negli scantinati, nelle periferie di Delhi, a vedere come si lavora 15-16 ore al giorno per fare, quindi, appunto, le borse, per fare la moda, quindi ha già fatto quel viaggio. Un cervello in fuga rientra, cioè, perché anche questa cosa di cervello in fuga ogni tanto mi fa un po' pensare, perché non sempre la fuga Una straordinaria mente creativa in fuga a 25 anni, che è giusto anche, no? Fuggire, andare, scoprire il mondo, non sempre è un fatto negativo se i nostri giovani vanno a fare. No, è molto positivo, ecco, perché è chiaro che lei ha imparato molto da questo viaggio, no? Da questi 3 anni in cui lei ha prodotto all'estero. Poi è tornata però molto turbata da questo meccanismo di sfruttamento anche feroce che c'è in India. Sì. E torna in Italia, torna nella sua Viterbo, che è una piccola città, e rimette e decide praticamente di fare delle borse fashion recuperando la sapienza degli artigiani della Tuscia, andando a far cucire minuscoli dettagli e particolari delle sue stupende borse dalle sarte del viterbese che avevano perso il lavoro nelle grandi aziende tessili. E quindi io sono andato con lei e quindi ho visto proprio queste donne che nelle piazze dei paesini, non so, te ne cito uno, Carbognano, nel viterbese, le trovi lì che cuciono i dettagli di queste borse che poi trovi, non so, a Dubai nei grandi magazzini di lusso. Io non so voi, ma io quando sento queste cose mi viene la pelle d'oca, cioè a me proprio mi esaltano, sono belle, perché se ne parla poco e e invece sono proprio là sotto i nostri occhi. Sono persone giovani che hanno il fuoco dentro, che tornano, amano il loro paese, rinunciano a dei guadagni. Ti posso fare un altro esempio? Sì. C'è Pietro Parisi, che io chiamo lo chef contadino, dedico un capitolo del libro, che è uno chef che a 14 anni lascia la campagna, nasce a Palma Campania, è una zona ad alto tasso di criminalità, di camorra, lì vicino è nato Cutolo, lascia il suo paese e va a fare il garzone, il ragazzo di bottega ad Alain Ducasse, il più grande chef di Francia, nei più grandi hotel di Parigi, poi va a Dubai a fare lo chef, sì, va a Copenaghen, gira il mondo, vive negli hotel e ristoranti di lusso, dopodiché torna a Palma Campania, nel suo paesino, apre un ristorante che quest'anno fatturerà circa 1 milione di euro. Pensa, vedi che andare in giro nel mondo quando uno è giovane fa bene, e non si deve parlare per forza di cervello in fuga, perché a volte rischia di essere veramente una stupidaggine, è un cervello in esplorazione, è un'altra cosa. Dobbiamo fare una pausa per il traffico, poi torniamo con Corrado Formigli. Carlo Gabardini ti vuole fare una domanda, tra l'altro. Traffico. Scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Impresa impossibile, storie di italiani che hanno combattuto e vinto la crisi, il libro di Corrado Formigli. Stiamo parlando con lui. Carlo, volevi fargli una domanda? Sì, però ciao Corrado, scusami, io non sono un giornalista, quindi adesso sbaglierò, sono un tuo grande fan, ma non sono un giornalista, quindi volevo fare la domanda, penso forse la più stupida, o forse una domanda che non si può fare, nel caso ti chiedo di scusarmi, ma come va il rapporto con Santoro? Va bene, nel senso che dopo che abbiamo preso strade professionali diverse, nel senso che io mi sono messo in proprio, diciamo così, con il mio programma, c'è stato un momento, diciamo, in cui siamo stati un po' ognuno sulle sue, poi ci siamo rivisti, ci siamo parlati, ci siamo incontrati. E quindi va bene, insomma, anche perché rimane un rapporto di stima, credo, e di affetto reciproco. Abbiamo lavorato tanti anni insieme, lui mi ha insegnato moltissimo in questo mestiere, io credo di avergli dato tanto, insomma, mettendoci del mio quando abbiamo fatto tanti programmi assieme, quindi il rapporto va bene. Quindi, poi adesso siamo in onda sulla stessa rete. È molto bello. No, volevo sapere se noi diciamo semplici spettatori possiamo apprezzarvi entrambi, non è che dobbiamo schierarci, ecco. Non dobbiamo fare due squadre. Molto bene. Adesso andiamo in onda uno il lunedì, uno il giovedì, quindi potete vedere tutti e due. Potreste fare una serata insieme il mercoledì, a quel punto si sta insieme sempre. A me piacerebbe, insomma, io credo che le nostre strade, anche proprio professionali, si ricongiungeranno, magari faremo delle cose assieme presto. È molto bello, perché Santoro ha un suo stile molto preciso, però è molto bello vedere invece come Corrado abbia preso delle cose, però poi invece fa dell'altro. Carlo, però ti do un consiglio: se vuoi fare l'autore per la 7, fatti pagare, perché sennò dai dei suggerimenti così gratuiti. Non va bene, no? L'ho già fatto, avendo scritto per Crozza, perché, l'ho già fatto perché questa di mettere insieme Formigli e Santoro di nuovo sarebbe comunque interessante. Va bene, grazie mille Corrado, buon lavoro. Grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro e saluti ai telespettatori, grazie. Ai radioascoltatori anche. Ciao, presto. Ciao. Va bene. Allora, adesso. Avevo paura a fare la domanda, che ho detto magari non si arrabbia. No, più che si arrabbia, anche la sensazione che magari c'erano delle cose che io non sapevo, come per dire, ma come non sai che sono in tribunale, che stanno litigando, e allora era per questo. Sì, in effetti poteva anche starci. Invece è stato bravissimo, una bella notizia, risposta. Quindi. Abbiamo Ulisse che ci chiama da Brescia. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire? Per il personaggio della settimana. Qual è la risposta? La sua Depardieu. Gérard Depardieu, grosso personaggio internazionale. La notizia qual è, quella di questa settimana? Sì, quella della lite con la birreria. Sì, a Lecce, è vero. Quella di tutte le settimane, però. Questa è la notizia di tutte le settimane di Depardieu, direi. No, però guarda, sto scherzando. Mi avrebbe voglia di dargli il premio ad honorem, perché in effetti calza perfettamente con gli indizi. Non è Depardieu, però. No, non credo che sia andato a Londra, se devo essere onesto. No, tra l'altro Abbiamo detto anche pensate a un colore. E adesso lo diciamo, però. Possiamo dire che il colore è il giallo. Se bisogna dire un colore, è sicuramente il giallo. Flavio, dalla provincia di Milano. Sì, mi hai anticipato, perché stavo chiedendo se era il giallo il colore. Vedi? Cioè chiami per fare delle domande. Perché... Esatto, no, perché ho perso per 10 minuti la trasmissione, non sapevo se avevate già chiesto del colore. Ed ero indeciso tra il giallo e il rosso. Ah. E avevi due risposte diverse? No, perché il rosso ci sta su che se è Hitchcock, sai, con gli vari... Questa è la tua risposta. Ecco. La risposta esatta è Hitchcock. Devo essere sincero. Sì? Sono partito dal grasso, cioè dal grosso. Sì. E avevo due personaggi che sono di Londra entrambi, cioè Hitchcock e anche Churchill. Che però è... Churchill però era forse della settimana scorsa. No, no, no, se tu se avessi ascoltato, diciamo che è già stato detto da un'altra ascoltatrice, detto, Churchill. E anche noi abbiamo fatto un po' la faccia perché ci sono delle similitudini. Allora, diciamo. Flavio, a questo punto devi solo dirci: cioè, hai vinto. Però qual è la notizia della settimana? Se la sai, sì, sicuramente. Sì, so, diciamo, che per il discorso della Shoah del documentario. Bravo. Che lui non se l'è sentita di fare, eccetera eccetera. Allora, la notizia è questa, perché tra l'altro è anche una bella notizia: l'orrore della Shoah filmato da Hitchcock, le riprese del cineasta ad Auschwitz e Dachau, restaurato dall'Imperial War Museum di Londra, il documentario girato dal grande regista nei campi di sterminio tedeschi. C'erano delle immagini che lui aveva girato, adesso hanno trovato una bobina nuova molto grande in più, ne faranno un documentario tutto nuovo che sarà pubblicato nel 2015, tra l'altro un modo anche per così mettere, non voglio dire la parola fine alla stupidità dei revisionisti, però insomma per far vedere anche le immagini che sono incontrovertibili purtroppo di quello che accadde. E quindi Hitchcock, pensa che genio, era un giovane regista, un genio, pensò, non c'è dubbio. Intanto vado a documentare questa cosa qua, e il fatto che ci abbia pensato, grazie a Dio, adesso ci consente di avere quelle immagini. Flavio, hai vinto i biglietti per la mostra di Villa Panza del Fai Aesthesis alle origini delle sensazioni, due biglietti, grazie, grazie. Adesso complimenti. Ciao, il programma. Ma ciao a tutti. No. Adesso balliamo, c'è quel pezzo solo visivo che in radio funziona molto, dove noi facciamo una scenetta muta di mimo. Adesso andiamo a Teramo. Abbiamo qualche minuto per raccontarvi un'altra storia che viene da Teramo. Noi abbiamo convocato per farcela spiegare il comandante della Polizia Provinciale di Teramo, Enzo Ranalli. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. La notizia che ci ha incuriosito questa settimana è questa: nascono le guardie ecologiche volontarie, saranno coordinate dalla Polizia Provinciale, svolgeranno attività volontaria. In 25 hanno risposto all'appello, corso di formazione, tutina. Via, si parte. Lei sarà il comandante di questa squadra di volontari. Comandante, adesso forse sono volontari, sì, diciamo. Quindi non so se ci racconti un po'. A me è affidato il compito di coordinarli, di sovrintendere. Sono pubblici ufficiali nominati dal presidente, sì, della regione Abruzzo, quindi sulla base di una legge regionale. Mm-hmm. Svolgeranno funzione di polizia amministrativa. Sì. Potranno fare multe? Sì, però possono fare verbali amministrativi. Però guardie ecologiche, quindi potranno fare multe, non so, a chi fa cosa, per esempio? A chi abbandona rifiuti, per esempio. Sì. Che è una delle emergenze, diciamo, della nostra provincia, una delle cose più brutte che si verificano, questo malvezzo di abbandonare rifiuti. Però è difficile beccarli in flagrante. Lo so. È difficile, però abbiamo fiducia nelle guardie volontarie, perché loro, essendo svincolati da obblighi sindacali, quindi avendo maggiore libertà di, sì, movimento, potrebbero forse intervenire meglio e potranno dare un utile supporto alla Polizia Provinciale, che attualmente è sotto organico. Certo. Ma in che senso gli obblighi sindacali? Dei risparmi sulla spesa pubblica, noi, sì, siamo sotto organico. Io ho detto, tra 10 anni potrebbe essere una professione, oggi è solo volontariato. È curioso però una cosa, che voi avete comunque fatto una formazione, 140 ore per formare queste guardie ecologiche, però poi non gli date nemmeno un buono pasto, proprio niente, sono solo volontari? Dunque, questi sono soggetti alla legge sul volontariato. Per cui non possono avere nessuna forma di retribuzione. Sicuramente però noi rimborseremo le spese, sia le spese pasto, sia le spese di... chiaramente poi in certe condizioni, se il servizio si svolge per un determinato numero di ore, con dei parametri che sono quelli dei pubblici dipendenti. Mi raccomando, perché comunque è una bella iniziativa, però volontari va anche bene, c'è uno spirito particolare, però almeno il buono pasto in effetti è giusto, visto che gli assegniamo un ruolo importante. Noi dobbiamo chiudere, però la ringraziamo, il comandante della Polizia Provinciale di Teramo, Enzo Ranalli, per essere stato con noi. Grazie, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie a voi. A presto. Noi dobbiamo chiudere. Quindi vi salutiamo. E salutiamo Andrea tutti. Piana, che ha scritto con noi il programma, così come Giorgio De Luca, redazione, social network, bombe a mano e quant'altro, Peter Bescapè. E ringraziamo regia. Chi ci ascolta in podcast. A sabato prossimo, buona giornata. Ciao. Da Carlo Gabardini e Alessio Maurizio. Ciao.